Ed eccoci qua, buonasera ragazzi, nella trasmissione più elegante e raffinata di tutto il network di Runtime, dove la musica jazz serve semplicemente per ammorbidire ulteriormente le belle parole che io, Simone Pizzi, e il mio amico Marco Gualdi. Ciao, ha chiamato il dottor Merda, ha detto che questa volta non ci produce la puntata. No, e allora... Se abbiamo problemi di merda, parliamo con l'altro nostro amico, Walter Sbano. L'espertone di merda che, come sapete, cioè, in quanto a eleganza, raffinatezza, le cene di Berlusconi ci spicciano casa. Ci spicciano assolutamente casa. Però questa musichetta jazz sotto mi piace tanto. Sì, tutto sommato alla fine... Io preferirei ascoltarla. No, a me, esatto, quello sicuramente, in silenzio, anche se è un sottofondo, che è la cosa più inutile. Però i sottofondi sono più belli sicuramente di quello che diciamo noi, questo è assolutamente chiaro. Comunque io parto con un annuncio di un nuovo podcast di Runtime Radio che partirà a breve. È un podcast molto intimista, forse flusso di coscienza, qualcosa un po' così, che si dovrebbe da intitolare La puzza della sconfitta, che è una cosa proprio che piano piano si svilupperà questa cosa, e quindi tutti potranno capire. Ma è un format per gli appassionati di Italia Viva? No, è un format. Anche non lo posso dire per chi è, perché sennò un po' per tutti, però per tutti quelli che puzzano di sconfitta. C'è tanta gente che puzza di sconfitta, e noi ne abbiamo visti tanti recentemente, ma poi in realtà, ecco, come fa anche l'esempio, insomma, il buon Walter, potremmo estendere questa cosa a tantissimi noi. Quindi... Scusa Pizzi, zitto un momento. Bello, questo è il momento che per ce l'ha solo. Ce l'ha solo chi? Te l'alzo pure così. Dobbiamo andare avanti con tanto? Ma questo è il nuovo jazz? Cioè è lo stesso jazz delle altre volte? O hai cambiato È la stessa che ti ho mandato di 30 minuti, quella che ti ho mandato l'altra volta. Non so, mi pareva diversa, che ne so. No, è la stessa. È più bella se non ci sono gli stronzi che ci parlano sopra. Esatto, ci sono questi stronzi. Maledetti. Comunque, Walter, salutiamo la chat. Salutiamo la chat e salutiamo, in ordine sparso, rigorosamente casuale, Lobby Frontali, che ormai nei nostri cuori resta Lobby Frontali, ma lo sappiamo bene che è Lobster. Abbiamo Zio Mischi, che io non riuscirò mai a usare l'accento giusto. Abbiamo Davide Gatti, giù in fondo, perché si è palesato all'inizio, speriamo sia ancora con noi, non si sia ancora bioccato. Salutiamo Stefano, che non sappiamo se ci ascolta in differita o se è in diretta qui con noi. Salutiamo poi tutti i pavidi, che come al solito non hanno il coraggio di rivelare che ascoltano GM. Beh, io un po' mi vergognerei. Quei 10-15 mila puntata, insomma. Ma io penso che alla mia famiglia dico che il lunedì lavoro fino a tardi. Io invece alla mia dico che vado a drogarmi. Sì, è più dignitoso. Più dignitoso, assolutamente. Pizzi, tu invece come ti giustifichi con Michela? Che noi qui dentro facciamo le orge. In merito a cosa, scusa? Il fatto che noi ti devi chiudere qui dentro con due sconosciuti a fare cose. Ma lei è contenta? Finalmente così non rompi coglioni a me, pensa, esatto, no? Capisci? Esatto, la stessa cosa. Diciamo però, prima della trasmissione, questa è per informazione di servizio, ma anche per dare, insomma, dei suggerimenti al pubblico che in qualche maniera ne può beneficiare, perché a volte bisogna anche beneficiare delle proprie esperienze, cioè condividere con gli altri. Io e Sbano abbiamo fatto un esperimento prima della trasmissione, che è quell'esperimento che ti aiuta a fare radio. A fare la trasmissione dopo? Secondo me lo dobbiamo raddoppiare la prossima volta. Perché uno ti scalda la voce, ti apre un po' la canna, anche se lì ci vorrebbe proprio una, quella del gas. Una bella grappa di quelle fatte bene, perché... Ci hanno regalato recentemente, non so, tipo 2 anni fa, una cosa del genere, delle bottigliette che sono whisky praticamente da usare per fare la Irish Coffee. E noi ci abbiamo solo praticamente corretto il caffè normale. Esattamente, abbiamo fatto una in modo nostro Irish Coffee. Sembrava Borghetti. Era molto buono. Però era buono. Devo fare una comunicazione di servizio ai paramedici. Ragazzi, scusate, oggi Lobby non ha preso il litio, per favore andatelo a prendere. Litio, cioè le batterie? No, non ha preso il litio. Litio. Serve sempre per quel problema di personalità che ha di tanto in tanto. Ah no, perché vedo sì che ci sono degli sdoppi. Esatto, sì. No, ha ribadito che Lobby Frontali è Lobby Frontali e Lobster è Lobster. Giustamente, sono, bisogna prendere diverse distanze. Io sono io e voi non siete un cazzo. E diceva il Marchese Grillo, che salutiamo, che ci ascolta tutte le puntate. Tra l'altro dice Davide Gatti che ha sviluppato questo algoritmo potentissimo, che in pratica cancella la voce, così può sentire solo il BGM. Bravo. Sul background. Allora io voglio raccontare una cosa importante. Voi sapete, poi dopo partiamo con tutti gli argomenti fondamentali, però parliamo anche un po' di tecnologia, perché questa in fondo è una trasmissione di Runtime Radio. Stavolta si parla di fregna. Io vengo tutte le volte perché me ci fate credere. Ma tu parli di politica pure, quello, insomma, non è che tanto. Però questo è importante. Il suo modo è porno, dai. Perché voi dovete considerare che il Runtime non è soltanto un contenitore. Ed ecco Pier G. Ciao Pier G. scusa. Ciao bello, ciao Biello. Benvenuto, non ci ascoltare in differita, ascoltaci adesso perché stiamo a dire delle cose importanti. Perché sta puntata forse la cancelleremo dopo perché potrebbe essere, sì, come dire... compromettente. Sì. Runtime non è solo un contenitore di contenuti, ma è anche uno sviluppatore. Noi non solo, cioè Alex sviluppa applicazioni, ma noi abbiamo sviluppato anche un codec, ok? Un codec molto importante. È praticamente la rivoluzione di quello che sarà il futuro dell'audiovisivo. L'H2 sto cazzo! Questo non è Gualdi. È troppo lontano. Sei tu per forza, cioè, no. Voglio dire, spegni sto cazzo di telefono. Sono troppo lontano. Ho capito, ma cioè, e questo codec è un codec che trovate anche su Wikipedia, questa è la cosa importante. Non so se, se insomma, non so per quanto lo troverete su Wikipedia, ma lo troverete. E... ma citato, referenziato, non è che c'è. Certo. No, no, è proprio importante. Perché è nella categoria degli H264. Okay? H2 sto cazzo, ripeto. C'è il, è il Barkham Color System, che è un codec importantissimo con il quale noi svilupperemo, insomma, i prossimi lavori dal punto di vista sia audio che video. Del resto il Barcolor l'abbiamo inventato, esatto, noi, diceva. Infatti il Barkham Color System è uno, insomma, delle cose che puzzano di sconfitta anche queste, però in realtà poi alla fine comunque in qualche maniera lo trovate pure su Wikipedia, quindi sapete che stiamo parlando di cose che esistono, perché come diceva il nostro amico Gualdi. Quale amico? Quello che diceva che se sta su Wikipedia esiste. È vero. Esiste. Ah, frequentate esiste. Beppe quindi voi? No. Chi è Beppe? Quello che... vabbè, lasciamo stare. Attenzione, ecco, ci hanno linkato, per esempio, la pagina dell'H264, dove... Leggilo, Pizzi, tu che c'hai... Di Wikipedia, tu che ce leggi... Ma io non leggo da qui. Tu che sei... Come se non leggi da qui? No? L'H264, OMPEG 4VC, AVC, che sta per Advanced Video Codec, o ancora MPEG 4 Part 10, è la designazione formale del... vabbè, lì solo ve lo sto a dire, è un formato standard di compressione video digitale con perdita sviluppato da Moving Pictures Experts Group. Nel maggio 2003 è stata completata la stesura finale della prima versione dello standard, nelle edizioni successive sono state aggiunte varie estensioni alle sue funzionalità. E direi che ci fermiamo qui. No, sì, infatti... anche perché già subito Wikipedia già mi sta battendo i soldi, a me sta cosa mi manda in bestia, scusate ragazzi, fatemi chiudere perché... Eccolo qua, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Se l'abbiamo c'è trovato, una cosa sì, che non farò mai, lo dico fiero di me, è dare soldi a Wikipedia. Barkham, eccolo qua, abbiamo trovato. Vai Marco, leggi Barkham sulla definizione di Wikipedia. La bare bone for camera media, anche nota come ha annunciato ufficialmente la prima versione del nuovo codec chiamato Barkham. Si tratta di un codec completamente royalty free, sviluppato in collaborazione con i maggiori esponenti in ambito tecnologico per quanto riguarda l'industria dei video e dello streaming. Barkham. Vai, che è importante, importante. Barkham. Esatto. Ci vuole. Nasce dalla necessità di avere un codec per il quale le piattaforme di streaming video e i produttori di contenuti non dovessero pagare i diritti di altre all'altre associazioni. Vabbè, c'è un piccolo errore, ma sai qui che vede, io si perdona. Sì, infatti. Come ad esempio la Moving Picture Expert Group, meglio noto come MPEG, proprietaria di codec video come l'H264 e Havoc. Barkham ha quindi, così detto brutto, Barkham strano, ha quindi unito il know-how acquisito da Google nello sviluppo del proprio VP9, quello di Mozilla, al lavoro su DALA, e per finire le conoscenze di Cisco, che a sua volta era al lavoro su... Raga, era quasi meglio riassunto dei Guerre Stellari, vi prego, cioè, dai, vita! C'è tutto. Le tre aziende, c'è Thor, quindi non pede il cazzo, le tre aziende appena citate, quindi hanno... Gli spiccia casa Hulk, Thor. Allora, hanno unito le proprie tecnologie per creare un unico codec che li sconfigga tutti. Tipo anello del Signore, esatto, giusto per parafrasare uno dei pilastri della cinematografia moderna. No, ragazzi, che allo stesso tempo non corre il rischio di infrangere qualche brevetto. Scusate, no, volevo leggere una cosa, però con sincero dispiacere, vai, stavolta vai. Non perché Pier G ci ha detto che non è potuto, diciamo, non ha potuto partecipare all'evento di Bologna perché il suo cane ha avuto una crisi venerdì e oggi purtroppo l'hanno dovuto far sopprimere. Era malato da tempo, ma giustamente immagino che sia. Lui dice: sono dispiaciuto. E posso immaginare, insomma, perdere un animale. Siamo dispiaciuti anche noi, immagino, insomma, che... Una delle rare volte in cui rispondiamo seriamente ad una cosa perché ci dispiace. Ah, vero, Gualdi? Barkham. No, nel senso... Io sono rimasto al Barkham, ragazzi. Tu lo sai, tu lo sai che io non c'ho rispetto per le persone, ma quando si tratta di un animale non ci... Quindi noi vogliamo tanto bene a Di Maio. Vabbè, comunque, Barkham... Lo rispettiamo tantissimo, Di Maio. Bestia è una cosa, animale è un'altra. Di Maio è una bestia, è un po' diverso. Allora, Davide ci dice che la parte no, raga, ho capito, ma Marzen me ne vado, vabbè, perché basta, ho capito. Barkham. Questa è importante, sta cosa. Questo, vabbè. Ragazzi, quindi partiamo con le cose quelle gagliarde, no? Cioè, gagliarde, stiamo tipo... quasi a 1000 morti per il coronavirus. Ecco, mille morti, però su, dopo 1000 morti su... sbloccano la live su YouTube. Scusa, Pizzi, una cosa, la community, a proposito di questo, io adesso ho un problema con la nostra audience, perché noi ci siamo venduti che te eri morto mangiando il biscotto della fortuna infettato col coronavirus, no, quindi fammi capire. Noi, che sono... cioè, noi lei, abbiamo, noi abbiamo creduto che tu fossi sotto le pezze a causa del virus. Adesso morto. Io mi domando, sto biscotto in realtà chi l'hai fatto mangiare? No, vabbè, stavo per dire una cosa, ma non la posso dire, perché aspettate un secondo, soltanto un secondo, è una questione proprio di regia. Ah, rieccoci qua, va bene, scusate. Quindi abbiamo scoperto l'amaro segreto di Pizzi, che non riveleremo. Però l'ho dovuto dire solo a loro. Una cosa molto triste. Okay. Vabbè, comunque dai ragazzi, partiamo con la politica, se sarà moda del cazzo, no? Ok. Che è proprio scarica figa. Che vogliamo dire? Vabbè, vogliamo dire che ragazzi... Che poi, allora... ultimamente sta succede proprio poco e niente, cioè... Allora, in realtà siamo a un passo dall'ennesimo rischio crisi di governo, del governo, okay. Perché ovviamente Renzi col suo fottuto 4% vuole comandare. Renzi c'è un piano che è quello di diventare salviniano all'ultimo. No, Renzi c'è vuole diventare il nuovo Berlusconi, è diverso, ma questa cosa l'ha sempre voluta fare, io credo, proprio da diciamo dalla notte dei tempi lui ha sempre ammiccato a quel tipo di elettorato. Il problema è che finché c'è Berlusconi, no, oltretutto lui, la fa. Lui si butterà a destra, sarà il collante tra centro e destra, è quello ti sto dicendo, prenderà no, lui il Movimento 5, lui farà il collante, è una colla. È una colla di pesce, è una colla di pesce. Beh, comunque, in realtà, io poi volevo raccontare questa storia che io avevo detto in redazione. Lunedì mi voglio infervorare perché, ma cioè, io ci sono rimasto proprio male quando ho letto di questa trionfante Giorgia Meloni che raccontava di aver bloccato un emendamento che avrebbe consentito di salvare la Casa delle Donne, che è questo luogo, questa associazione. Ce l'ho presente quando Virginia Raggi ha detto a un certo punto: ce l'ho fatta, una cosa del genere, che era, mi sembra pure lei esultata. Sì, vero? Sì, certo, tutti hanno esultato, però il problema è che esulti per aver bloccato un emendamento perché, cioè, hai fatto risparmiare dei soldi. Signori, è un'istituzione che aiuta le donne in difficoltà. Ma sono comuniste, Sbano, quello non hai capito qual è il problema, perché lei dice sono una donna, sono cristiana, però lei è proprio, quelle sono comuniste, capisci? Non sono donne. Esatto, bravo. Sono subdonne. Sono subdonne, esatto. Vabbè, che vedevo. Però era contenta Raggi, visto, adesso non la chiudiamo, a posto, ho vinto, ce l'ho fatta. Poi ha fatto tutto lei il casino, ma sei, in compenso oggi la Cina a momenti di era guerra all'Italia, che comunque ci avrebbe Pizzi, soltanto se che vuoi, fatto io sono, bene, io sono pronto col contributo quando mi vuoi sparare l'audio. Io aspetta, ti sei attaccato? Sì, io mi attacco sistematicamente. Ok, prova un po', vai un po', vedi un po', aspetta però, aspetta, scusa, rifallo perché eravamo distratti. Dai, sì, a noi ci piace tantissimo, però devi alzarti un po' il tuo di volume. Bravo. Giuro che sono a palla. Ah sì? Giuro. Hai preso il video. Ecco. Io sono Giorgia. Sono una donna. A posto, abbiamo capito tutto. Dai ragazzi, che questa è la serata giusta. Pacchiamo. Con questa adesso si scopa, ragazzi. Sono una madre. Aspetta. Sono cristiana. Scusate, c'è troppa confusione. Basta un secondo. Io ho capito solo orgia. Eh sì, perché lei dice fammo un'orgia. Ah, ok, faccio l'orgia. Okay. Brava Giorgia, brava, noi te volevo bene. Brava Meloni, brava. Ti lascio il canale aperto quando vuoi subentrare. Due Meloni, hai visto? No, manco quello. Bene. No, il problema è che lei fa, secondo me, un marketing controproducente. Però poi, vabbè, siccome che tanto oramai dice viva Duce, va bene. No, in realtà considera che la Meloni ha, come dire, ha sul libro paga Steve Bannon, che voglio dire, ha portato dei risultati, perché dal 3-4% che aveva ha sforato il 10%. Ma chi è questo qua? Chi è? Parla, chi quando è? Parli di gente. Steve Bannon è stato lo stratega della campagna elettorale di Trump. Non è l'ultimo degli. Il problema è che. E un... che ce paga a Meloni? Basta che una volta che. Esordi, no, allora il concetto è che in qualche modo, dopo aver ottenuto il risultato, per evitare, diciamo, una serie di associazioni, Trump l'ha un po' defenestrato, perché ovviamente c'ha questo suo nazionalismo esasperato, questo suo sovranismo, eccetera. Quindi cosa ha fatto? Complice anche la missione di distruggere l'Europa dall'interno, facciamo complottismo qua, lo ha praticamente, lui si è rivolto all'Italia, dove ha trovato la sponda nel partito di Giorgia Meloni, quindi di Fratelli d'Italia, che ha raccolto i frutti di questo lavoro, perché ovviamente ha esasperato il sovranismo, però si è trovato ad avere quasi il 10%, anzi forse più del 10% del consenso elettorale, in parte tolto a Salvini, perché poi di fatto arriverà un momento in cui si cannibalizzeranno tra loro, perché di sicuro non è che la Meloni la votano quelli che ieri votavano Potere al Popolo, voglio sperare. Sì, io devo rispondere assolutamente a Rizzard, perché Rizzard mi ha lanciato una sorta di pseudo provocazione. Allora ti dico innanzitutto che io nel PD non ci sono mai stato. Non ho mai aderito, non ci ho mai avuto tessere, non ci ho mai avuto... Aspetta, c'è la confusione che Rizzard sente molto spesso PD, ma lui non esatto, il PD Rizzard, che dici tu è un'altra cosa. Esatto. Ma poi ricordiamolo, Pizzi aveva la tessera del Partito Comunista Americano. Esatto. No, ma c'era ancora. Sì, vabbè, sì, sarà scaduta. Si autorinnova per compassione. La famosa tessera numero 3. Devo assolutamente ricomprare il cavo qui. L'amaro del cavo devi comprare. Io spero che non vi dia troppo fastidio. No, Pizzo, vabbè, ma poi tra l'altro... No, però se smetti di smucinare anche me. Ma noi ti comprendiamo, hai così tante cose da fare. Dicevo che il mio ultimo contatto con un'organizzazione politica dal punto di vista attivo, quindi, è la mafia, cos'è? Quindi praticamente con una mia partecipazione all'interno dell'organigramma federale e regionale, è stato col Partito Democratico della Sinistra. Quindi il FUPDS. Esatto, quindi subito dopo quando il Partito Comunista cambiò nome. Però, insomma, la mia prima tessera era la tessera della Federazione Giovanile Comunisti Italiani. In Italia ci sono stati i comunisti. Sì, sì, vabbè, stato un momento in cui qualcuno era veramente comunista. Però pensavano solo a Scopalli. Come c'era del comunismo anche in quello. Come ha raccontato uno che poi tutto è tranne che comunista, Massimo D'Alema, ad Andrea Purgatori in uno speciale sulla caduta del muro di Berlino, eccetera. Sì, diciamo che il comunismo italiano era anche un po' diverso da quello un po' più tradizionale, però diciamo che c'è stato. Volevo dire una cosa. Sì, no, ma dici bene, Rizzard, cioè è corretto quello che tu dici, però non, cioè nel senso, già quando il Partito Democratico quando è già diventato Democratici Sinistra, io già non c'ero più, capito? Quindi erano troppo di destra. Volevo dire questa cosa, non so se abbiamo un sottofondo un po' triste, un po' melodrammatico? Guarda, oggi non sono molto... No, non sei molto, ok, allora facciamo senza. Però lo vado a cercare. No, beh, tanto è veramente un di cui, perché ci chiede Pier G. Lo cerco per la prossima volta, sì. Ok, ce lo teniamo da parte. Ci chiede Pier G, ma a quando un crossover OGM MDB Samma Radio su Sanremo? C'è un problema, Pier G, io... Che non ha visto nessuno, che di noi tre nessuno si è mai inculato Sanremo. Scusate se te lo dico senza filtri, perché... Poi lo saremo poi, anche. Se vuoi parliamo, ma lo faremo... Parliamo di Morgan e di Bucio. Ma chi c'è? Allora, fermi tu. Bugo. Allora, io Morgan ci arrivo a sapere chi è, perché voglio dire, i Subsonica, tutta una serie di gruppi. La Sergento. C'è tutta una serie... No, aspetta, alto. Cioè, perché Subsonica? Oggi ho mischiato Leopardi con Paffi, uguale, adesso ho messo i Subsonica quando volevo dire... Tirami su. No, il gruppo di origine di Morgan. Il gruppo di origine era Zero Negativo, forse, non lo so. No, quello Michela lo sa. I Cars Imperius. Questo disco beh, Labirinto. Cerca il disco Labirinto. O forse ce lo stanno dicendo. Che ne so, in chat, vediamo. No, non ce lo stanno. Blu Vertigo. Esatto, bravo, vedi, diciamo, ce lo dicono in chat. Grazie. Sono bravo, diciamo, Davide Gatti. Bravo. Sono più o meno della nostra generazione. Quindi, ok, ma cazzo, sto Bugo, sì. Chi cazzo è? Cioè, è uno della nuova generazione. Allora, diciamo che poi adesso raccontiamo pure quello che è successo. Se mai ce ne fregasse qualcosa, no? Però diciamo che Morgan, e chi conosce un po' Morgan lo sa, cioè quello è veramente bruciato, ma lo è. Sì, completamente. Però pure tu, Bucio, no? Che ce vai a fare una collaborazione? Vabbè, ma lì no, sono le case discografiche. Ma lì c'è sa anche, perché hitano. Fino a là dicevo, questo comunque mi porta visibilità. Perché poi tutta sta storia, secondo me, è tutta finta poi. Cioè, sì, ma sicuramente è tutto organizzato. Cioè, io voglio immaginare che è tutto organizzato, anche perché sennò doveva finire almeno a sangue, a spruzzi di sangue dal naso, se no non c'ha senso. Ma poi dipende dagli spruzzi, perché sono spruzzi e spruzzi, ricordiamocelo sempre. Sbruzz. Tu che spruzzi preferisci, guardi. quelli attivi. Allora, io posso parlarvi del mio festival di Sanremo, quello che ho sentito, quello che hai visto tu, che ho sentito, cioè che ho provato dentro di me. Allora, pure che allora, è il festival cinese. So di Giorgina, e che è la ragazza di Cristiano Ronaldo. No, sì, è la compagna, la donna di Cristiano Ronaldo. Anche se poi c'è questa cosa per cui Ronaldo, sapete, che va sempre in giro con due persone, con Giorgina e con un tizio che è un amico suo. No, io non voglio fare allusioni di nessun tipo. È quello che faceva i video a fianco a lui. Libero di fare quello che vuole. Però insomma, la sua Giorgina, qualcuno la dovrà consolare. È la sua guardia del corpo. Poi, ma Giorgina, penso che con i soldi se consola. E poi Amadeus, che è sempre più tirato, infatti. Amadeus. Poi Bucio e Morgan che si rinfacciano le cose per finta. Poi Tiziano Ferro che fa le battute su Fiorello e Fiorello si incazza. Fiorello non è che si incazza. Fiorello telefona a una giornalista per sfogarsi e poi quando tutto finisce sul giornale dice cazzo. No, ma Fiorello che dice mi hai ezzato l'odio contro. Dai, e che il cavolo. Il bullismo. Ma per favore, cioè, se vuoi stare su Twitter, Fiorello, le regole di Twitter. Poi Tiziano Ferro, cioè, è uno stronzo, cioè, ma loro sapevano che è proprio uno stronzo che ezza l'odio. È famoso in tutto il mondo. Tutti i giorni, cioè, esatto. Quasi come Sgarbi, no? Fiorello pure lì, insomma, se non sta mai ai livelli di Morgan, poco ci manca. Beh, vabbè, Fiorello pure si passano una serie di storie di Fiorelli so 30 anni di onerata carriera, insomma, però vabbè, lasciamo stare. No, volevo dire io invece proprio nei giorni precedenti a Sanremo. Aspetta, io non ho finito le cose, cioè, vai finisci però. Tizio che se cambia i vestiti, Achille Lauro sarebbe giusto. Per me è tizio che se cambia i vestiti, esatto, però fa il figo. Per me l'Achille Lauro è una nave, pensa senza un po'. Pisello. Sì, una volta lo era, sì. Prima ancora era un capitano di marina. Nugo senza pisello, ma il pacco però c'era, cioè, se vediamo. Il pacco era un pacco. Dai, se vediamo un po' il pacco. Pacchettino, vabbè, ma come quello c'era il cazzo piccolo. C'è il cazzo piccolo, sì. Però cioè, come c'è il condorello, quello del condorello. C'è il condorello, vabbè, ma c'è la sua dignità. Sì, tanto mio, no, ma quello è bravo. Ah, tu te pensavi di venire qua con me? Io c'ho il cazzo del condorello, tacchi al cazzo. Cioè. Condorello, bravo. Però basta. Comunque è finita la tua esperienza. La mia esperienza del Festival di Sanremo. Ah, tanti post del cazzo su Facebook che non mi sono filato. Quindi non c'hai paura degli spoiler? No. Chi ha vinto a proposito? Ha vinto Diodato. Questi cazzi! Che io non so chi sia. Ecco un altro che, vabbè, però, sale Diodato. Però oggi abbiamo sentito su Radio Capital che il sindaco del paese dove è nato Diodato, che non abbiamo ancora capito quale sia, praticamente passerà per una settimana 24 ore su 24 per tutto il paese in filo diffusione la canzone. Cioè penso che anche se qualcuno dovesse essere piaciuta sta canzone, tacci tu a te voto col cazzo. Un po' di minuti lo vanno a cercare questo praticamente. Io sto andando, è nato ad Aosta, è nato. Sto cercando su Wikipedia perché veramente io adesso tizio non so come faccio a partecipare a Sanremo tra i big. Una volta si diceva i big e le nuove proposte, no? Non sapendo chi cazzo è. Vabbè. Ma il fatto che tu non lo conosci non vuol dire che lui non siamo sia un big. Noi siamo dei vecchi, noi allora è in attività su Wikipedia, risulta in attività dal 2007 a 4 album. Ma Wikipedia non è attendibile, ti abbiamo dimostrato. No. Sì, assolutamente. Se c'è scritto su Wikipedia è vero. Ok, va bene. Però ragazzi, quindi pure il Barcam è vero. Sì. Okay. Finché c'è scritto è vero. Esatto. Invece io vi dico la mia settimana di Sanremo, perché quasi in concomitanza con la settimana di Sanremo, pochi giorni prima, è uscito un nuovo canale di quelli che riciclano contenuti a non finire di Mediaset sul digitale terrestre, che si chiama Cine34. Ah, cinema italiano. La cosa è che in quei giorni ho beccato un sacco di poliziotteschi anni 70. Sì, perché io è uno dei filoni, tutti i film del commissario Tanzi mi sono visto, cioè Roma si incazza, Milano de più, Napoli fetente, me li sono visti comunque tutti. Comunque l'hanno molto pubblicizzato per radio sto canale, in effetti sì, anche io lo voglio... Guarda, ripeto, sono gli stessi film che Vanzina, prima facevano su... Fino a che non arriva Vanzina, va a seconda delle serate, perché ci sono le serate tematiche. Vabbè, però hanno creato il contenitore. Certo. Comunque, insomma, io... Ma c'è Edwidge Fennec? Cioè. Sì, c'è la serata. Il venerdì, se non sbaglio, c'è la serata dedicata proprio a Edwidge Fennec. Bella porcona maledetta, vieni qua, facci sotto la doccia. Cagna maledetta. Bella maledettona, bella chiappona. No, scusate, mi ero distratto. Ugo, che fai? Togliti le mutande e poi c'era il prete. Sì, ma cosa fai? Vabbè, quindi anche Sanremo, insomma, abbiamo parlato. Hai altro da dire? Insomma, non è che... cioè, ma... noi ci abbiamo però da dire una cosa. Noi siamo stati al Nerd Show. Oh, bravi. Di Sanremo. Nerd Show di Bologna. Siamo stati al Nerd Show di Bologna e la gente ci fermava. Ci fermava. Ciao, io sono... Mortacci vostra! Mortacci vostra. Così è stato bello. Cioè, per un attimo mi sono sentito quasi uno youtuber, insomma. Cioè, no, no, non a quei livelli. No, però no. Una decina di persone... ah, io ascolto, io sono tuo fan. Io, ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? E a un certo punto c'era un tizio che deve fare un podcast che deve andare molto per la maggiore adesso, e stavano tutti i nostri amici podcaster, insomma, di vecchia lunga data, che stavano tutti intorno a questo. Ah, oh, che bello, ma tu sei quello, ah. E poi lui si gira verso noi, fa, ah, ma voi siete quelli, e quindi noi eravamo, capito, cioè, infatti, inception, la scena dei fighi, insomma, abbiamo fatto, è stato bello, dai, devo dire che abbiamo rincontrato persone che non vedevamo da molto tempo. E il Nerd Show com'è? È come tutte le altre. Solo che è Bologna. C'è un c'è un difetto fondamentale. Perché tu... ce ne sono due, allora, se io dedico... due difetti fondamentali, ma forse il secondo no, fra... no, uno, perché adesso facciamo interagire Sbano. Sbano, se io ti dico Bologna, a te che ti viene in mente? Il Tottelen? A parte... la Fregna. Dai, Sbano, devi essere più pratico però. La Fregna. La Fregna, ok. Allora tu dici, ok, allora, evento nerd, cosplay, Fregna. Ecco, è il problema che ti stavo suggerendo, quindi ce n'è uno a uno. Aspetta, vai, nerd e cosplay non è che vanno proprio necessariamente. No, è come no, no, è così. Sì, ultimamente dovrebbe essere così. Negli eventi è sempre pieno di sti cosplay, di solito abbastanza nude, diciamo. C'erano, ne ho organizzati un paio, posso portare testimonianza. Però, insomma, non come deludente, diceva. Deludente. Allora, secondo me da quel è ancora all'inizio, può migliorare. Da quel punto di vista, secondo me Romix gli spiccia a casa. Perché proprio a Romix un giorno vi parlerò di Sweetie J, che ha partecipato alle due edizioni di Steamfest. Io non so chi sia, però è una ballerina di burlesque, una cagna, che fa anche cosplay, insomma. Vabbè si denuda per lei. No, c'erano delle belle ragazzette, ma c'è sta qualcuno che fa il cosplay di Twitch Fennec? No, non credo. Edwidge Fennec. Edwidge Fennec, perché ormai l'età è quella che è. La mummia, fa il cosplay della mummia. No, comunque è una cosa che quanto secondo me avrà... tra... è una settantina abbondante, direi. Fra due o tre ancora anni. Una bellissima donna. Beh, però è invecchiata in maniera... cioè, non ho idea degli ultimissimi anni, però aspetta, diciamo in età adulta era comunque una donna raffinata. Pizzi, non distruggere un sogno. Non distruggere. Non guardare. Ricordala com'era. Ricordala com'era, non come è diventata. Come si scrive Edwidge. Basta che Edwidge. Ed, ma che cazzo è scritto? Adware. Edwidge. Vige, così. La doppia Pizzi, ci tieni ad avere le tue erezioni residuali da qui alla demenza senile? Allora no, ti conviene non guardare. Non lo fare, l'ha fatto. Aspetta, che ancora non è successo niente. Ah, Fenech. Lobby intanto ci dice che qualche bolognetta caruccia però c'era, dai. Sì, però insomma non... Quando ancora? Qui ancora è bella, oh. Bella. Poco meno, un po' meno bella, bellissima, un po' meno. Questa di quando è? C'è avuto tipo un ictus, come mai ci hanno chiesto? Vabbè, ma non sta bene. No, hai ragione, era meglio che me la ricordavo come... Ma qua non è neanche il massimo. Vabbè, comunque, lascia... Ah, tu hai visto di peggio? Ma a 71 anni comunque, se vogliamo essere precisi, dovresti scrivere biograficamente. Ora, no, ma allora no. 1971 gli viene. Ah, è vero, aspetta. Oggi. Dai, tutto continua. Allora, amici in chat, di solito siete voi che vi fate i cazzi vostri in chat per raccontandovi le cose tra di voi, stavolta lo facciamo noi in diretta, quindi se volete fare del più e del meno in chat, fate pure. Ma fallo anche tu, Sbano, vai a vedere. No, ma io, cioè, voglio dire. Oggi. Vabbè, comunque il Nerd Show carino, cioè alla fine zona fumetti, zona youtuber, zona... c'erano i mattoncini Lego con tante belle costruzioni che tu non hai visto. A proposito, c'è una bella mostra di Lego a Palazzo Venezia, per la cronaca io sabato pomeriggio ci andrò, ecco così. Ah, bello. Okay. Potremmo venirci anche noi, ma siamo a Milano, quindi... Ma state sempre a Milano? Hai ragione, guarda Milano. Mamma mia ragazzi, cioè che tempo. Comunque, beh, c'erano i mattoncini, c'erano i Legos, c'erano le carte, i fumettisti che firmavano i fumetti. C'era Sio. C'era il wrestling. Attenzione, c'erano i cosplay del wrestling che facevano. Ah, c'era wrestling. Il tizio di ah, sì, no, c'era uno che stava al bar che praticamente... Che poi io penso, stavo facendo un ragionamento. Secondo me, a volte queste persone non devono fare una bella vita. cioè nel senso, cioè sei talmente grosso che non puoi manco chiudere le braccia, cioè, ma... No, ma quello non poteva chiudere le braccia, dici... perché pesava 180 kg e non era, e non era di muscolo, insomma, quindi... Però la ragazza sembrava molto contenta, eh? Sì, sembrava veramente molto contenta. Intanto non so cosa. No, Michele dice che è prenotato. Ah, ok. Hanno messaggi di servizio. È prenotato. Brava, brava, vabbè, Michele. Brava. Messaggi di servizio, ok. Esatto. Niente, vabbè. Comunque, dai, queste fiere alla fine a lungo andato sono tutte. Allora, noi non abbiamo rotto niente se non il cazzo. Ma soprattutto nulla. Ma soprattutto il nostro. Esatto. Non abbiamo, non abbiamo rotto nulla. Nulla, è vero, è vero. Abbiamo giochicchiato anche un pochino. Abbiamo fatto una LAN dove Pizzi a un certo punto ha bestemmiato e se n'è andato. E che vaffanculo, che uccidete sempre. Ah, beh, stai fermo, certo, vi equalizzate tutti contro di me. No, cioè, tu senso... stai fermo, quindi sei primo che no, non fare la vittima. Su. No, no, cioè, come no, mi teletrasportavo, mi sparavano. Cioè. Così, vabbè, lo so. Scusa, non ho capito. Perché eravate due contro uno. Due contro uno, certo, certo. Comunque niente, abbiamo fatto questa bellissima visita e siamo andati ai ristoranti, che la cosa più importante è andare a mangiare. Esatto, perché a Bologna, bene o male... Anche siete andati se... a mangiare il sushi, perché... No. No. Incredibile. A mangiare il tortellino. Tortellino. Fatto a mano dalle vecchiette, che sono quelle vecchiette vecchie, che mangiano indosso. Le vecchiette vecchie. C'era un po' di unghie dentro. Chi l'avrebbe mai detto? Sì, sì, buonissimo. Allora, salutiamo, non ci ascolta, però in realtà ci ascolta Stefano De Ruler di All Games Italia, che noi conosciamo oramai da tanti anni, da 6-7 anni, e non l'abbiamo mai incontrato, quindi abbiamo avuto l'opportunità di incontrarlo a Bologna. Ma c'era un motivo, perché lui non ci voleva conoscere. Non ci voleva conoscere, ma anche noi non volevamo conoscerci in realtà. E gli dareste torto? No, ci ha portato dentro questo ristorante al centro di Bologna, ragazzi, dentro al mercato delle erbe. Il posto si chiamava? Le erbe. No, non lo so. No, no. Che... Te lo posso cercare nella mia cronologia. Esatto, cerca la cronologia. Facciamo un po' di pubblicità gratis. Dentro è una sorta di mondo nel sottomondo, una cosa un po' particolare. E sto locale è bellissimo, si mangia da paura e ti portano praticamente i tortellini dentro il coccio. Coperto come le zuppe cinesi, praticamente. Quindi si è sentito un po' faccato. No, però scusatemi, dovete raccontare di questo Diletta Leotta che faceva il culo a tutti in Lamparti a Quecca Arena. Ma perché c'era, davvero? Un certo Diletta Leotta, non Diletta Leotta. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ah, vai, vai, dici, raccontaci. No, c'era sto tizio che ammazzava tutti quanti, però a me, al Lobby, a te soprattutto, che appena scomparito era lui. No, io me ne sono andato subito, indignato. Perché sei indignato, dai. Dovevamo fare noi... Cartello, è lì che è andata la versione 3.0 del Barkham. Esatto. Sì, sì, no, era già nato, ma diciamo che lì l'abbiamo installato subito. Io so che mi hanno cambiato il Google e non riesco più a trovare un cazzo. Vabbè, sei veramente inetto. Invece, Sbano, dai, raccontaci qualcosa tu. Tu che hai fatto in questo weekend? Sono stato giù a Napoli, ho mangiato. Ti hanno scippato? Così, un po' di luoghi comuni, dai. Ma no, d'altra parte, voglio dire, c'ho la raccomandazione della gente del posto, sai. Sabato che giorno era? Scusate, 7? Sabato? 7? No. Oggi 8. È 10, sì. 7, 8, 9, no, 8. 8, 8, 8. Torno subito, eh. È stato il mio compleanno, poi. Che schifo. Ne hanno fatto tantissimi bei regali. No, uno l'ho lasciato in macchina, se no ve lo faccio sentire perché è molto acustica la cosa, insomma. Però, un clacson. No, il comunicatore di Star Trek. No, dice solo mercato delle erbe, non dice nient'altro però. Mercato delle erbe. Vabbè, non ci frega un cazzo, Waldi. Cioè. Dentro il mercato, voi andate dentro al mercato delle erbe, c'è questo ristorante. Sulla destra. Sulla destra. Perché sulla sinistra ce ne sta un altro ancora, che però è una polpetteria. Una polpetteria e quindi fanno polpette in tanti generi. E ha detto infatti che ci porterà la prossima volta lì. Beppe Rizzard mi chiede: Dumboy, l'auto sempre ok? Sì, perché la sto lasciando a Roma, perché insomma tu capisci, me freghi una volta, cioè è la seconda macchina che ci rimetto a Napoli, mica la prima, quindi lasciamo stare. Ma ti ci devi abituare, purtroppo. No, beh, ma qui sono le forze della natura in questo caso, perché vabbè, comunque era altro, forse era altro. Bravo, può essere. Sì. Altro, okay. Altro punto. Bene. Punto tre. Vai. No, dicevo, vabbè, a parte insomma raccontare che non è successo niente di memorabile. Ma tipo è morto qualcuno questa settimana? Ragazzi, in realtà qualche coccodrillo, se non ricordo male, ce l'abbiamo. A parte che è morto, cioè voglio dire, visto che poi ci agganciamo alla cerimonia degli Oscar, è morto Kirk Douglas. Bravo. Ed era pure Douglas, ora. Come dicono qualcuno, cioè, è morto Kirk Douglas. Era finestre. Senza finestre offesa, era pure ora, cioè, era tutto. Genario, c'era 120 anni. Oh. faccia. È un po' cioè, l'età di cose del dottor McCoy. McCoy, sì. Esatto. E quindi, pezzo di storia di Hollywood. Tipo 106 anni c'aveva. Comunque, era, del, era del 16. Ci va pure stanza. 104 anni. 104 anni. Mazzo, oh, i coglioni. Ed era più lucido del fio, ricordiamocelo, perché Michael, insomma... Vabbè, Michael, c'è avuto qualche piccolo problema in passato, però... Si è ripreso. No, e quindi questo ci permette di agganciarci alla cerimonia della notte degli Oscar, già, visto che non abbiamo una sigla, immaginate. Veramente. No, però... Cinema! Beh, questi sono gli assoluti. Che bello. Sbano se sta impiccando. C'è stata la notte degli Oscar, che ovviamente tutti noi non abbiamo seguito, perché noi che cazzo ce ne frega. Però scusa, posso? Scusa, sì. Silenzio. Ma quanto è lungo? Però scusa, avevamo la sigletta di attualità che ci aveva fatto qualche mese fa il buon... Sì? La vuoi? Metto quella? Perché c'è Oscar Goes To, è ferma a Rami Malek, però rende l'idea. Giusto, allora vai con la sigla. Vabbè, poi ci possiamo ringraziamo ancora una volta il nostro stimatissimo, pregiatissimo Leo Vargion, che ultimamente, che fino a... Ragazzi, non è che... Non è che gli ha mandato il biscotto tuo? No, no, sta a posto. Io vedo, pubblica podcast, io ascolto quello che fa, quindi non commento, però poi... Però è lui che non ascolta noi? No, quello sicuramente. Ormai una volta ci ascoltava. Ma ormai si è elevato, non può più ascoltarci. Ah, il locale si chiama Altro. Ah, giusto, perché c'era pure, sì, Lobby, è vero, vero, era con noi anche. No, no, Lobby o Lobster, io non lo so però quale dei due era. Quindi pare Lobster. Lobster. Era Lobster, perché risponde Lobster, c'ha ragione, insomma, poi... E niente, quindi sostanzialmente l'Oscar di incredibile, miglior film, incredibile, per la prima volta nella storia è andato a un film non americano. Che insomma, il film. Io non sapevo neanche si potesse fare una cosa del genere. Allora, però, aspetta, io non lo so se in realtà, si può fare. Ci è andato vicino anche La vita è bella di Benigni qualche anno fa, ma alla fine, diciamo, non ce l'ha fatta. Però in realtà, questa volta un film della Corea del Sud. Attenzione, del Sud, dal titolo Gualdi Parasite. Gualdi. Che è questo film che dopo tanti anni ritorna a parlare di un tema che noi diciamo europei forse ricordiamo come tema portante del cinema di alcuni anni, che è la lotta di classe, no? Che è questo scontro tra molto abbienti e molto poco abbienti nella Corea moderna, nella Corea del Sud moderna, perché della Corea del Nord dei ambienti, che, insomma, come ci diceva Max Fierro, è una prassi da loro, cioè ancora per loro è proprio è una società rigorosamente suddivisa in classi, quindi... Però io adesso voglio lanciare una provocazione, l'ho lanciata in redazione questo pomeriggio e la butto lì, e noi abbiamo ignorato naturalmente. Butto la salsiccia in corridoio. Ma non è che hanno fatto vincere Parasite per non far vincere Netflix? Netflix ha già vinto. Voi direte perché? Nel suo cuore. Perché candidato come miglior film ovviamente c'era The Irishman di Martin Scorsese, prodotto da Netflix e andato al cinema per puzza per due giorni, quindi questa cosa a qualcuno sicuramente ha dato fastidio. Tra l'altro costato 140 milioni di dollari, ragazzi, cioè un omboato infinito, cioè sto... Vabbè, per un film hollywoodiano è un budget medio-alto, no. Non è neanche... Sai che stavo a parlare di una cosa, cioè 140 milioni sono un sacco di soldi. Vuoi che ti dico quanto costa un Avengers medio? Ma che c'entra Avengers? No, grazie, dire, senso... certo, voglio dire, è tutto computer grafica, tutta CGI. In termini assoluti, tra l'altro anche questa volta il film degli Avengers non hanno vinto gli Oscar tecnici per gli effetti speciali, però non c'è verso. Vabbè. Ma comunque, guarda, allora, io ho fatto, cioè nel senso, tu hai lanciato la provocazione e ok, per non far vincere Netflix. Io penso, se dovevano non far vincere Netflix, potevano far vincere qualcun altro. Insomma, non è detto che capito, ma il terzetto vincitore quello era, non è, cioè il terzetto finalista quello era. Lo vedo più come dovesse dire proprio una scelta politica. Cioè, se, tanto sappiamo gli Oscar, no? Cioè, nel senso, è una cialtronata, quindi in generale. Invece, secondo me, hanno colpito Netflix sull'animazione. Perché so che il film. Scusate, purtroppo sta cosa sta diventando un problema. Devo assolutamente ricordare di comprarmi un cavo. Guarda, potremmo addirittura fare una cosa: scambiare quello del tuo canale con un altro che non stiamo usando. Però non diciamolo a nessuno. No, non lo so. Non credo che ci sia, quello è il problema. No, sono tre. Ok, va bene. Aspetta, ma qui c'è anche un XLR. Attenzione, bucio di culo. Vabbè, comunque... No, niente, non è. Ok. Allora, quello che dice, allora, pare praticamente... Però hai spento il monitor. No, vabbè, non è colpa sua, è il monitor. Ma che cazzo, cioè, dove stiamo, ragazzi? È tutto a posto. L'apocalisse. Tornato. Praticamente pare che Netflix abbia prodotto questo film di animazione che sia costato un sacco di soldi, adesso non ricordo come si chiama. Qual è? Che è fatto in stop motion, però emula praticamente la CGI, cioè nel senso, mentre che con il film di Spider-Man, il film d'animazione, lo hanno fatto in CGI che emulava il stop CG, motion. CG, hai ragione. Invece in questo caso hanno fatto un processo inverso e pare che questo film era sicuro che vincesse praticamente il film come miglior film d'animazione e invece ha vinto Toy Story 4, che mo'. Anche due coglioni al quarto della storia. Allora, se proprio devo dire che hanno voluto colpire Netflix, forse hanno colpito più lì. Cioè, guarda, io di questo non, onestamente non so nulla, non so neanche di quale lavoro stiamo parlando. Non è molto pubblicizzato. Infatti, è una cosa un po' strana. Dice zio Mischi, stiamo parlando di Klaus. Sì, poi. Bravo, bravo, bravo. Vabbè, però quello era anche a tema Natale, o mi sbaglio? Forse era tema Klaus Kinski. No, vabbè, ma che vuol dire? Anche se fosse. No, era una domanda assolutamente collaterale. Allora, 1917 dicono che da Oscar io non l'ho visto. Ho visto Jojo Rabbit, che è un film, secondo me, pedagogico, perché è comunque indirizzato ai bambini. Cioè, è un film che parla da bambino. Cioè, nel senso. Che però devo dire che a me è piaciuto. Anzi. Beh, ha vinto comunque il suo Oscar. Mi ha sganciato la lacrimuccia, devo dire, alla fine. Oddio, il pizzico la lacrimuccia. E non è perché c'ha una colica, mi stupisce. No, ma io anche col film di Staglioli ho fatto. Ricordiamoci che Jojo Rabbit è di. Per la regia di Takita Waititi, che è lo stesso regista del di Thor che schifo. E poi lo stesso regista è quello che fa Hitler nel film. Sì, tra l'altro, esatto. Bello, molto carino, io lo consiglio perché è sempre quei film con quella veste un po' fiabesca, un po' alla vita è bella, ma anche quell'altro francese che avevano fatto, quello sul treno lì, non mi ricordo però come cazzo si chiama. Le Train de Vie, bravo. Grazie. Quindi con quella patina un po' fiabesca che ci sta, perché comunque in qualche maniera ammorbidisce, diciamo, questo tipo di contesto, però devo dire che è stato carino. È un film fatto cioè nel senso, non è da cinema, perché non è che ci stanno sti, cioè tutta sta parte visiva così elaborata, sta fotografia così meravigliosa, però insomma vale la pena. Io intanto stavo seguendo il confronto tra Lobster e Ziomski, perché ovviamente zio dice che sostanzialmente The Irishman era una palla, e Lobby dice: quando una palla diventerà un parametro oggettivo per valutare la qualità di un prodotto, sarà davvero il momento in cui dovrò emigrare dal pianeta, che è una palla, per paradosso. Attenzione, esatto. Che quasi crea. Ma guarda, allora ragazzi, ci sta tutto adesso, perché oggi proporre un film da 3 ore e mezza è complicato, ma è complicato proprio per una sorta di. Vabbè, ma questo è un difetto tipico, cioè è un modo di fare cinema tipico di Scorsese, che i film brevi non li però, fa. Però oggi c'è una disabitudine, no? Nel senso, oggi guardami i film con i cellulari in mano. Questo è il problema. Ma guarda, i film che stanno incassando di più in questo momento durano un fottio. No, non hai capito. A me piacciono da morire. Cioè, no, io dico, però ci sta che la gente fatica a pensare a un film che dopo diventa. Beh, un la soglia, la soglia dell'attenzione si è molto ridotta, soprattutto nelle nuove generazioni. Però io adesso, The Irishman premesso, proprio perché dura molto e magari in questo periodo non ho 3 ore di fila e non ho intenzione di spezzarlo, non l'ho ancora visto, mi ripropongo di farlo in un momento di tranquillità, insomma il primo giorno di vacanza che non c'ho niente da fare, mi metterò lì con la mia dovuta calma e mi guarderò The Irishman, perché ammetto che a me i film di Scorsese generalmente piacciono, quindi ho delle aspettative. E io ce l'ho pure, sì. Però è chiaro, è vero anche che certe scelte magari possono cominciare a essere un po' pallose, tipo inseguimento forzato alla ormai dimenticata giovinezza degli attori, che in CGI per forza ormai un film su due vengono ringiovaniti di 40 anni e spesso il risultato diventa anche un pochino, come dire, una macchietta, non sempre. Ora non so se sia questo il caso, ripeto. No, non pare che sì, secondo zio Mischi c'è questo problema. In realtà io non lo so, non l'ho visto ancora. C'è un video dimostrativo che ha fatto un utente che praticamente ha utilizzato altre tecniche di ringiovanimento, uno, cioè non un professionista, e comunque ha fatto un lavoro migliore di quello che ha fatto. Vabbè ragazzi, questo. Dopo Superman senza baffi, voglio dire, sì, Injustice, sì, sì, League, voglio dire tutto. Che è Superman senza baffi, scusa? Quando Superman, quando hanno fatto dei reshooting in Justice League, lui stava facendo Mission Impossible, aveva i baffi, siccome che per contratto non poteva tagliarseli, perché esatto, dopo avrebbe dovuto utilizzare i baffi finti e si incazzavano, ha dovuto girare tutta la parte di Superman con i baffi e hanno tolto in post produzione, ma con un effetto disastroso, bruttamente male proprio. Tant'è che poi nell'edizione in DVD in un video hanno rifatto quelle parti e lì ci fu proprio l'esplosione della fama di quello che era la tecnica del deepfake, perché degli utenti appassionati rifecero le scene in deepfake assolutamente migliori di quelle che andarono al cinema. Vabbè, ma Justice League, cioè, è una tragedia quel film sotto mille punti di vista, quindi insomma io non... Comunque ci sono queste scene che sono state fatte con un processo di ringiovanimento diverso ed effettivamente rendevano meglio, sì. Poi c'è sempre il problema che tu stai parlando della gente di 60-70 anni e passa, che devono recitare con le movenze e comunque con la fisicità di uno che ce n'ha magari 20. Sì, il problema è questo, che alcuni attori che vanno più verso gli 80, verso i 70, a un certo punto anche a livello proprio di movimenti, voglio dire, fanno un po' fatica. Immaginarmi un finto giovane De Niro che corre, insomma, è chiaro, un po' come vogliamo parlare del nostro, no, è presto per parlare del nostro. No, ancora aspettiamo, ci arriviamo. Aspettiamo, ma okay, vi ricordate, cioè, per esempio la sigla di TJ Hooker, no? Dove stava William Shatner, correndo, che correva, che con la, corcolone, vabbè, con il braccio così perché c'aveva la pistola, gli dava fastidio una pistola quando correva, non si poteva guardare. Tu vuoi immaginare che quelle scene sono fatte a rallentatore? Perché sono fatte a rallentatore? No, non era rallentatore quella scena. No, vabbè, ma poi voglio dire, all'epoca non era vecchissimo il nostro, sì, cioè, ma già sarà bello un quarto d'anno. Sì, quello sì, ma c'era, no, ma forse neanche, mi sa. Vabbè, c'è da dire che voglio dire, la televisione, diciamo che tra tutti gli attori che ci tengono molto alla forma, vedi anche Patrick Stewart, diciamo che William Shatner non è stato uno tra questi, insomma, non è che... no lui, vabbè, diciamo, non erano che neanche fece produzioni particolarmente, lui fece fare dei quelle ritocchi proprio al computer, mi sembra, perché quando lui praticamente in alcune scene abbandonava la plancia, ma stiamo parlando, vedeva, di Shatner, okay, gli si vedeva il culo enorme e quindi fece fare dei rimagheggi per farsi rimpicciolire il culo. Ma nelle ultime apparizioni, probabilmente. Sì, vabbè, d'altra parte si è completamente allargato ai tempi, diciamo, degli ultimi. Ah, non ti allargare, insomma, questo gli facevano. Scusa, ma poi guarda che cazzo di macchine della polizia. Ma era quella degli anni '80. Allora, a me... Bella Capriola, va, bravo. Bravo, bravo, allora, DJ Uke, quello bravo, che mi piaceva a me dei telefilm poliziotteschi americani, anzi polizieschi, perché si è. Il poliziottesco è nostro. Era, esatto, bravo. Erano gli inseguimenti, cioè questi che correvano per 20 minuti, saltavano le reti, saltavano i tetti, a roba del genere, e alla fine comunque. E con i mezzi televisivi dell'epoca, insomma, non si poteva fare tantissimo, non è che c'erano, come dire, non è che potevi fare i piani sequenza infiniti. Poi io non l'ho mai capito, no, ma lui, guarda, no, dai, no, cose incredibili, no, ma lui, no, poi era, cioè, faceva le multe, quindi c'era della polizia stradale, ma poi dopo arrestava i criminali, che faceva, come... No, allora, non credo, no, non era della stradale, questo è Richard Hard, madonna, cioè, era... lui, tra l'altro, se non sbaglio, era anche addestrava i nuovi, anche addestratore, sì, i nuovi, però diciamo, le regole. Era la sigla di una delle stagioni, infatti, della seconda, esatto, tu vedere la prima stagione, ma poi bisogna vedere se questa è quella originale, forse in italiana, quella italiana è stata rimaneggiata. Io mi ricordo la scena di lui che corre, che era rallentatore, su intro, ma non era rallentatore, eccolo. Non era rallentatore. Dai, era rallentatore, ma che cazzo su dici, dai, no, non era rallentatore, ma poi, cioè, sta fermo nel posto, c'è un frame rate piuttosto bassino, ma non era rallentatore. Sta morista, però scusa, che riesce a tutte le parti, quantomeno per rispetto ai nostri ascoltatori, apri il canale, hai ragione, no, non solo non lo posso fare io da qua, apri me, apri te, aprilo, vai. Perché ragazzi, io, cioè, ta-ta-ta-ta-ta. Barcam. Questo sì che era il Barcam Color System. La fronte imperlata di sudore dopo 10 metri di corsa. Esatto. Fantastico. Che prende la pistola in mano poi. Esatto. E non gli scivola dal sudore. Quella è la cosa più incredibile. Che belli questi telefilm. Che belle queste musiche poi. Oh, questo è. Con il suo, con la sua mostrina di LCPD, che era Los Cazzos, Los Cities, Los questo è 22. 2 kHz mono, ragazzi. Raga, ma quanto era bella Etherloop Clear all'epoca? Era figaina proprio. Proprio bella, bella, bella, bella. Ma anche lui era un bell'uomo, dai. Shatner. Sì, sì, dai, Shatner. Piaceva Shatner. Era un tipo che piaceva, come raccontava Barbara Boucher ridendo il suo parrucchino. Vabbè. E poi c'era questo tale Adrian Zmed che io Adrian qualcuno... Zmed che penso sia morto. Vado a cercare io. Vai Marco, vai, se lo trovi telefono. No, cioè. Penso che non lo troveremo, forse lo troveremo proprio qui a Monterotondo, potrebbe essere finito qui. Sì, scusa, voglio dire, ci abbiamo avuto Henry Cavill. Ci abbiamo avuto, chi ci abbiamo avuto a parte chi a David Lynch sicuramente, anche se non lo sì, sappiamo. Sì, no, no, David Lynch incognito. Ci abbiamo avuto Curcio il brigadista. Curcio. Sì, sì, Curcio è nato a Monterotondo, non Micio è che... Gelli pure. Micio Gelli. Micio Gelli. Vabbè, comunque ragazzi, silenzio. Io dico che questa ancora oggi è secondo me la più bella sigla di Star Trek che abbiamo mai visto. No, è la scimmia che ti fa parlare. Esatto, lo so, però a me... la stessa scimmia che ti impedisce di aspettare più di 6 minuti dall'uscita della puntata per guardarlo. No, io devo dire che questa sigla è perfettamente aderente e adeguata al tipo di serie televisiva che stanno facendo. Ah, bocciofila. Qui quello che dico lo dico adesso, perché io l'altra volta non ce l'ho stato e continuo a sostenere o elaborando un po' che forse secondo me questa serie non solo porta Star Trek ad un altro livello, ma riporta Star Trek anche alla, diciamo, alla magnificenza d'un tempo, che era quella della critica oggettiva di una società che non è più quella che tu pensavi che fosse. E quindi lui si ritrova in un mondo che non riconosce più, perché determinati valori vengono meno per la paura, per l'intolleranza, per la chiusura, diciamo, rispetto all'esterno. Quindi tutti quelli che erano i presupposti del mondo di Gene Roddenberry in questo ambiente vengono completamente... Ma che comunque la federazione fosse già in crisi, si sapeva già. Io ho veramente apprezzato, sto apprezzando molto questa serie... Bella, diventa un pseudo procedurale, sta diventando insomma una, e poi Engage, ragazzi. Quando dice Engage, quando dice attivare, proprio lui c'è il moto, si commuove da solo nel momento in cui se si stava per mettere a piangere da solo. Allora, molto fanservice quella scena, però ce l'aspettavamo. Vabbè, però tutti, sta, insomma, sta, certo. Dai, allora, terzo episodio, posso dire leggermente interlocutorio, che però insomma pone, come dire, le basi per 7 episodi successivi, che io mi auguro siano entusiasmanti, anche perché in 7 hai creato tanta pastura, che la prima domanda che mi faccio è: ma basteranno 7 episodi per chiudere tutte le trame che stanno aprendo? Probabilmente sì, perché non essendo stata subito... Non è Netflix. Perché non è stata subito annunciata la seconda... Cioè, prima hanno fatto alcune puntate, sì, ci sta a piacere, famo pure la seconda. Quindi o hanno allungato il brodo... E che no, secondo me molto brutta. Secondo me sono due storie diverse. No, sì, ma infatti. Poi ricordiamoci che stanno per partire per lo spazio profondo... E ancora non abbiamo visto Riker, non abbiamo visto Diana. Perché stanno su Nuvola Libera, Free Cloud, che è praticamente quel gestore che regala gigabyte. Ma è tipo il Nexus. No, esatto, a me questa cosa un po' mi mette paura, devo dire la verità. Perché quando ho sentito Free Cloud un po' mi sono venuto un attimo e dico, mo che cazzo è sto Free Cloud? Ah, giustamente, come dice anche Peppe Rizzard, anche Tette di 9 non è ancora cicciata fuori, quando sappiamo bene che deve cicciare. Sì. Invece è cicciato fuori Tug. Inaspettatamente. Che in realtà in originale credo fosse Hugh. Hugh, sì. Hugh. Che fai? Pizzi è... Sto sentendo. Ah, sì. Invece, no, volevo dire una cosa, rapidissimamente. Ho dimenticato di abbassare la base. No? Poi parliamo di tutto il resto. Ma vi siete accorti che implicitamente zitti, quattri quattrini hanno reinserito il concetto di commercio e il concetto di retribuzione in Star Trek? Quando? Dove? Il capitano della nave che stanno prendendo per andare nello spazio profondo lo fa per soldi, l'ha detto, non è che lui ha detto che costa molto e non è un Ferenghi, costa quindi molto. Hanno parlato di costi, ma sì. È federazione fino all'osso, come dice, quindi ho capito, ma, però è veramente, guardate che il discorso dello scambio cioè nel c'è senso anche la moneta c'è sempre stato. Mo la moneta esiste, allora la moneta esiste, esatto, anche se viene utilizzata fuori dalla federazione. Esatto. All'interno della federazione noi siamo rimasti che l'uomo, l'uomo lavora per automigliorarsi, non per una retribuzione, perché il denaro di fatto non serve. Vabbè, ma lui che è comunque una scheggia impazzita che forse, non sta all'interno del sistema, dice tanto datemi dubare de latinum. Davide dice ma è un mercenario. Sì, siamo d'accordo che è un mercenario, però ripeto, come dire, certi meccanismi fuori da quello che era il contesto Ferenghi non eravamo più abituati a sentirli. Allora, secondo me si tengono continuamente sul vago, e anche in questo caso qui, esatto, staremo un po' sul vago, esatto, non si capirà un cazzo, la buttano un po' in caciara secondo me. Ma in realtà non è, cioè secondo me, poi questa non sono tanto d'accordo con quello che dice Walter, perché allora che la federazione all'interno del suo sistema abbia applicato un certo tipo di teoria, e questo è una cosa, il fatto che non esista una moneta non è mai stato detto in maniera, perché comunque l'interscambio anche con le altre organizzazioni che potono essere i soldi, quelli in qualche modo, cioè, comunque c'era una valuta, c'era un interscambio, c'era un fattore di interscambio commerciale, quindi comunque esiste l'economia nel 23° secolo. Il fatto che questo all'interno della federazione non abbia un ruolo, quindi non può partecipare al discorso del miglioramento dell'essere tutti quanti, tanto non c'è bisogno di me dei soldi, è chiaro che poi comunque lui non è che dice a me, cioè mi dovete dare 57.000 crediti dalla federazione, lui dice io costo molto, ma questo potrebbe significare tutto un po', potrebbe comunque nel frattempo in chat, interessante questo spunto, perché zio a un certo punto dice nella seconda stagione Picard diventa un Maquis, e Rizzer gli dice zio guarda che è già un Maquis, effettivamente se ci pensate in qualche modo lui è, come dire, un reazionario, no? Quindi è un qualche modo è un Maquis adesso. Vabbè, i Maquis però erano un gruppo terroristico specifico in una determinata area per una determinata ragione, sì ma più ampliando il concetto, non a quel, cioè come dire, non è che sei un brigatista, però sei un terrorista, ecco. Ampliando il concetto. A me sembra più la federazione adesso che so Maghi. Esatto. Sì, per certi versi. Anche sì, perché lui non è che diventa un sovversivo, cioè lui è semplicemente è un restauratore. Ha una sua missione all'interno di un contesto dove nessuno lo aiuta, lui trova la sua soluzione, ma non è che lui va contro qualcosa. Cioè. Ma la Riccia era presente in No, è un personaggio che entra nelle storie 14 anni prima di quella che stiamo vedendo. Tra l'altro, ragazzi. Tra l'altro, ci hanno fatto il primo flashback. Probabilmente ne faranno anche altri. Posso tornare a parlare un'altra volta delle tutine? Perché a me sta cosa mi sta turbando. Dai. Nel terzo episodio, in questo piccolo flashback, si vedono praticamente Picard e la sua. La tizia. Numero uno dell'epoca. Non lo sappiamo, con queste tutine. Che cos'era che lei, tornano ad essere praticamente con le. Diciamo. No, sono completamente diverse, ma completamente diverse, come si anche fighe, però sono completamente, cioè, no, degli inserti neri, cioè, sì, però tornano ad avere il nero preponderante e ad esempio il giallo e il rosso come colore secondario sulle spalle, mentre invece da primo contatto in poi ci avevano abituato ad avere questo blu con questo nero e la maglietta, diciamo, era grigio, non era blu, sì, grigio, esatto, è nero con la maglietta a collo alto sotto del colore della sezione, quindi se le rimischiano ogni si cambiano uniforme ogni 10 anni, non c'è niente di strano, ma secondo me c'è mai stata una serie di Star Trek, cioè al di là delle ultime, quelle che erano collegate proprio temporalmente, però cioè ogni serie di Star Trek ci ha avuto le sue uniformi, sì, ma le fanno proprio a caso, se vai a vedere, cioè quelle che facevano a caso erano ancora peggio quelle prima, che a un certo punto a Kirk gli hanno fatto quelle uniformi rosse col coso, con l'accetto qua, insomma, che quelle veramente c'entravano un cazzo, cioè nel senso con il continuum di tutto il resto, perché quali, scusa? Quelle dei film, quelle rosse, quelle tutte rosse. Vabbè, quelle film sono le più brutte per certi versi, sono quelle che hanno più il senso militaresco da un certo punto di vista, però lì proprio spezzano addirittura pure il continuum dei colori, cioè nel senso che non c'ha proprio più senso il rapporto che c'aveva l'idea originale del giallo, blu e rosso, no? Ma al di là il fatto che poi dopo l'invertono e via dicendo. Ma comunque il fatto che questi cambiano uniforme ogni 10 anni, 15 anni, non è che mi pone tutto questo problema, insomma. Se vai a vedere anche su coso, pure su... sul film quello di J.J. Abrams, il primo, comunque quando appare per la prima volta nero, quindi quando il padre di Kirk era giovane, lasciamo perdere poi che la storia dovrebbe essere tutta diversa, anche lì c'erano ulteriori altri uniformi, quindi cioè nel senso è sempre stato così. No, ma che il punto non è solo che cambiano, è le convenzioni di colori che si mischiano tra loro. No, quelle sono cambiate solo una volta. No, non è solo il rosso con il giallo. Ti parlo anche del discorso che le uniformi che abbiamo visto nel flashback del terzo episodio di Picard sono più simili a quelle di The Next Generation piuttosto che a quelle successive. Perché erano precedenti a quelle che vediamo adesso nel telefilm. No, cioè... no, non mi sono spiegato. No. Primo contatto, Nemesis e Insurrection avvengono comunque prima di quel flashback. Okay, no. E so grigie. Esatto, mentre invece quelle che vediamo nel flashback sono più simili a quelle di Next Generation. Mi piacevano più grigie sotto una indietro. Qual è il problema? No, no, ma certo, che problema c'è? Tanto le fanno col replicatore. Appunto, non facevamo ironia del fatto che il replicatore è come il Bimby, se non ci metti le schede non te. No, lì hanno trovato uno che l'ha ridisegnata e ha detto "Falle, famo così, vai, replicatore". Perché dobbiamo farle? Perché questo è quello che voglio fare io nella federazione, per migliorarmi, non mi rompete i coglioni. Esatto. Però, ok, va bene. Esatto, c'è uno che disegna che ha diritto di farle vedere. Ogni tanto dovrà fare qualcosa per esatto, questo. Esatto, lì per 10 anni non fa un cazzo, mo che faccio? Penso alla prossima. No, devo dire che poi tra l'altro invece quell'uniforme che si vede nel flashback è la stessa che sta nei fumetti, nei prequel dei fumetti, cioè, nel senso, quindi si sono riagganciati a una cosa che in teoria non dovrebbe essere canon, poi dall'altro, quindi perché noi sappiamo che perché Nikon è pure un po' Sony volendo, perché poi dipende da se è mirrorless o no, però vabbè, questi sono altri discorsi che non c'entrano niente. Allora, questa puntata ci è piaciuta? Io però c'è solo una domanda. Allora, a me questa puntata mi lascia solo con un interrogativo, fondamentalmente. Se Picard ci aveva come domestici, tra virgolette, domestici, amici, collaboratori, dai. Esatto, diciamo, delle persone che gli davano una mano dentro casa, degli assassini dei servizi segreti romulani, no? Perché non si porta dietro? È quello che ci stiamo domandando tutti. Perché restano a guardare la vigna? Perché che sono i più forti di tutti. Prima o poi comunque li ammazzano. Cioè, nel senso. Non detto, perché qualcuno deve guardare la vigna. Cioè, qualcuno deve stare là a guardare la vigna. Cioè, non è che vigna nella quale Picard ammette poi tra l'altro. Cioè, beh, che fa un vino di merda e non gliene frega un cazzo. Io ci ho provato a averci il senso d'appartenenza qua. Ma io non faccio il vino. E quella dice: stavi sempre a guardare le stelle. Ma tu che fai? Mi spia. No, stai sempre a guardare la Zork. No, neanche. Ma che... Però voglio dire, no, davvero, di questo parliamo. Quei due personaggi sono fighi. E sicuramente e alla sono fine loro i traditori? Allora, no, non lo so. Io adesso sono propenso a pensare che siano comunque degli infiltrati romulani, ma degli infiltrati, passami il termine, buoni, che cercano di contrastare la frangia cattiva. Non so se mi spiego. No, scusa, stavo a leggere una cosa. Ma secondo me neanche sta per un cazzo. Semplicemente loro si sono tirati dietro, li ho tirati fuori. Ma poi ci spiegheranno in qualche flashback come si sono invece, ragazzi, esatto, prima o poi questa ragazzi, pure ma se invece viene fuori che i Borg sono un esperimento fallito dei romulani, è quello che abbiamo detto noi tipo la prima puntata, perché gli elementi si i romulani a montare, non si integrano bene, esatto, se provi a simulare un romulano gli è zompato il cubo. Allora loro questa cosa te la buttano adesso con questo fatto della dash vash. No? Quindi l'odio per le forme sintetiche, quindi per l'intelligenza artificiale, diciamo, tra virgolette, no? E ovviamente i Borg che sono? Se non sono un ibrido praticamente tra vita cibernetica e vita organica, no? Il fatto che loro non hanno trovato il cubo Borg, ma hanno trovato l'artefatto, cioè nel senso, comunque in teoria l'origine di tutti i cubi. No, il punto è un altro. Viene chiamato artefatto, esatto. Però non è un cubo Borg che si è disattivato dopo che hanno assimilato l'unica nave romulana che gli è capitata. E la collettività è sbroccata. E che è successo? C'è stato un bug. E quindi, che è successo? Infatti quello ci doveva far sapere. Che è successo? No, per quello dico, ragazzi, hanno pasturato tanta roba. Però, e abbiamo, scusate, solo 7 episodi per portarci a casa. A proposito delle forzature, l'unico Borg che trovano qual è? Quello con Tug dentro. Miragos. Vabbè, questi sceneggiatori per dare una continuità a queste storie qualcosa hanno dovuto ripescare. Vediamo che cosa ci darà. Ricordiamo. Metterci qualsiasi scusate, perché lui, alla qui purtroppo, se andate a Torino e prendete il tram com'era, piazza dove abbiamo noi, vabbè, Borgo d'Oro, a un certo punto c'è una fermata, si chiama Borgo d'Oro. E allora noi Borgo d'Oro sarebbe praticamente noi quando siamo stati a Torino, a Natale, tutto molto bene. Praticamente c'era sta cazzo fermata ogni volta e quindi l'abbiamo ripresa e ogni tanto ci sentiamo prossima fermata Borg d'Oro, che sembra una bestemmia, cioè detto fra noi, sono torinesi, cambiate sta fermata, vai. No, dicevamo, Marco, stavi dicendo? Non lo so, non mi ricordo più. Beh, la memoria a breve termine è volatile. No, beh, comunque dicevo, brutta storia, abbiamo solo 7 episodi per portarci, come dire, a termine tutta la pastura che hanno messo nei primi tre. Perché nel terzo episodio, che è un pochino più lento narrativamente, meno come dire, meno d'azione, anche se c'è poi una scena di un assalto a casa di Picard, comunque hanno creato un sacco di presupposti, sì, hanno creato quello che è la crew, che la piccola crew che partirà. Abbiamo scoperto anche che c'è... Gangherata, tra l'altro. Ma ne manca uno, però. Ne manca uno. Abbiamo scoperto che c'è anche... com'è che l'hanno l'acronimo del medico olografico d'emergenza? Medico olografico d'emergenza. MOE, sì, no, però l'MOE, ok, l'MOE. Ma era così pure prima. Sì, sì, no, vabbè, però dico... Che però è uguale al capitano, se non mi sbaglio. No, è no, non è proprio uguale, però gli assomiglia un pochino, pure io ho pensato. Infatti a un certo punto non dice, fratemi capire. Sono un attimo confuso pure io all'inizio, però non è... Voi che siete più osservatori di noi. Gli assomiglia, non so se è lui proprio lui, esatto. Però, raga, io continuo a non farmela la ragione del fatto che tu fai, combini la tecnologia del teletrasporto con quella del replicatore e crei l'ologramma materiale, perché fondamentalmente tocca, ti può toccare, lo puoi toccare, e poi cazzo non puoi fare una cioccolata calda nel replicatore se non c'è la scheda del bimbi. Io questa cosa me la porterò nella perché tomba. Il replicatore c'è la scheda del medico, se tu togli la scheda del medico non trova, è sempre questione di miseria, ma c'è porca miseria, cioè, ma il problema è che il replicatore, cioè, se non sa che deve replicare, ho capito, ma c'hanno una capacità di memoria di immagazzinamento dati infinita. Sì, diciamo che questo problema prima non ce l'avevano fatto. Guarda, è venuto fuori, no cazzo, nel replicatore c'è sta solo il tavernello. Ma perché? Però c'è anche nell'ultima puntata unica, di The Next Generation, tutto, dove Picard torna indietro nel tempo, torna nella prima stagione, chiede il tè e quel replicatore gli dice: mi spiace, ma non è disponibile questa pedazza. È vero, quindi perché è lui che l'ha programmata. L'ha programmata lui. È vero, hai ragione. Ho capito, certo. Ma una volta che l'hai lui programmato... Lui non è che gli chiede il tè, Grey, e il replicatore gli fa... Oh, e che cazzo è, mo? Quanti cazzi? Che hai chiesto? Perché? Quanti cazzi? Perché? Perché? Vabbè, dai, facciamo un attimo un giro d'opinioni. Marco, fino adesso? Fino adesso mi è piaciuto, mi spiace per questa federazione bistrattata, Gidron e Berry, rivolta nella tomba. No, però prima o poi avrebbe... Allora, già questa cosa sta succedendo da anni, diverso non tempo, non si è mai, no, fermato la rivolta. Sono, no, 20 anni che si... Diciamo che da Deep Space Nine in poi, insomma, ne stanno a succedere tutti i colori a sta cazzo di federazione, quindi... Ma anche in come si chiama lì? Discovery? Il penultimo film che hanno fatto di Picard. L'insurrezione. Anche l'insurrezione alla fine c'è comunque. L'insurrezione è quello con i Baku e... Esatto, la federazione comunque è corrotta, c'è una cospirazione. Quindi c'è questo tema, diciamo, è molto ricordante. In questo caso, secondo me, con il giusto personaggio, perché secondo me solo Picard poteva reggere a una storia come questa, cioè la suprema delle cospirazioni, cioè qui stiamo a parlare, come dicono loro stessi, cioè nel senso i Romulani sulla Terra non si sarebbero mai permessi prima di fare una cosa del genere, cioè nel senso sono appoggiati, sono proprio infiltrati, esatto. Si fingono vulcaniani, perché secondo me la vulcaniana, la Commodora non è vulcaniana, anche io lo penso, però guardi, dice che no, quella è vulcaniana e sa perfettamente, perché lui giustamente fa ragionamento dicendo che è la parte della federazione che è d'accordo con la cospirazione. Giusto, ci sta come ragione. Anche se lei dice: non guardate il personaggio, l'attrice dice: non guardate il personaggio del Commodore come un cattivo, perché lui ha i suoi fini, ma non necessariamente sono dei fini. È perché è una vulcaniana. Esatto. Magari uno non comprende. Ha dimostrato il senso. Anche, secondo me, delle sfumature quasi come dire, per essere vulcaniana, ha mostrato delle sfumature quasi come dire. Non razionali, quasi. Beh, diciamo che lei, esatto, diciamo che lei minaccia apertamente la sottoposta. Non lì, è proprio vulcanianissimo come atteggiamento, comunque, però vediamo. Dicevo, cioè, io ti faccio schietta morta a te e a tuo fratello. Cioè, è abbastanza esplicito lì. Quindi, sai, certo, però anche quello. I vulcaniani si fanno. Cioè, il saluto vulcaniano. Attenzione, cioè, come si presentavano ai Klingon? Gli sparavano. Cioè, non è tanto è vero, anomala è vero, questa è cosa. Vero, cioè, nel senso. Ma infatti pure su Enterprise tutto questo aspetto dei vulcaniani viene sviluppato meglio, cioè nel senso, comunque i vulcaniani, secondo un preciso ragionamento logico, se loro arrivano a una conclusione, la conclusione è quella, e certo, quindi agiscono, che a te ti piace o no, cioè nel senso, non fanno una questione morale, fanno una questione logica. La logica dice che io te devo sparare, se non tu spari a me, esatto, bravo, è quello che è. Infatti con gli andoriani i problemi erano questi, no, cioè nel senso, fino a che poi non è arrivato Archer e Rotter cazzo lui ha preso quel carcere tutti quanti, quindi perché lui era un po' il James Kirk dei Noantri, no? Sì. Ma era l'antenato, ragazzi. Esatto, era allora, voglio dire, ragazzi, ha vissuto in un'epoca in cui avevano ancora i tasconi nei pantaloni, che sembra una cosa da poco, però se tu ci pensi, a me piacevano tanto quell'uniforme. Ma perché erano le uniche tute veramente con un senso logico, erano vicine, utili, erano usabili, erano più vicine alla nostra, diciamo, realtà, ed erano anche un po' più, come dire, versatili. Erano tute da lavoro. E non ti stringevano il pacco come quelle da Next Generation. Esatto, che infatti, come dicevano prima in chat, poi dopo Picaro parlava così. Insomma, per essere un attore shakespeariano, a un certo punto a Patrick Stewart gli ero tutto un po' il culo. No, è giusto. Poi ricordate che lui si tirava sempre giù. Ma tutti lo facevano, non so. La giacchetta, sì, perché gli si alzava, allora si rimbocciava. Ma tutti così, si tirava su praticamente. Quando si sedeva, quindi tutti quanti, pure numero uno, si tirava sempre giù. Perché c'aveva qualche difetto, probabilmente, quella. Ho capito, però dopo che la vedi una volta, due volte. La prima stagione erano attillatissime. Facevano anche un po' ride, se ci... anche per gli anni in cui erano state pensate, quelle erano proprio delle magliettacce. Proprio. Poi la seconda stagione l'hanno ritagliata. Erano tutte complete o c'era una maglietta sopra? No, allora nella prima stagione sembravano tutte complete, la seconda in poi erano due pezzi. Anche se ovviamente il taglio non si notava perché nero su nero erano fatte apposta. Perché poi non so se ci avete mai fatto caso, vabbè, magari molti di voi non gliene fregava un cazzo, però nelle rivendite ufficiali di tutte quante le uniformi, quindi tutte le serie di uniformi del Star Trek, non vendono i pantaloni, vendono solo la parte superiore, che sono tutti neri, cioè. E beh, non è vero, perché quelle dei Next Generation c'hanno una riga, c'è una riga, sicuro? E sì, quelle, alcune all'inizio sì, quelle di Coso, per esempio, quelle di Enterprise pure, cioè nel senso, cioè, i pantaloni c'erano una certa rilevanza, insomma, secondo me, perché il taglio in cui erano fatti era talmente, diciamo, su misura per i singoli attori, che se te lo compri di taglia standard sformato viene fuori un tubo. Secondo me te lo devi, è meglio che te lo fai fare da nonna sarta, diventi perché... un Minecraft, direi. Esatto, un Lego. Vabbè, non capisco, intanto stanno sparando le targhe in chat, NX01, la prima Enterprise, non so bene di cosa stanno parlando, però... No, bisognerebbe scorrere in sopra, però sì, la NX01 è la prima Enterprise. Era la prima Enterprise. Tra l'altro, grazie per realizzare. Io e Gualdi una volta abbiamo fatto una ricerca sul codice NX. Ti ricordi? Il codice NX era il prototipo. Erano i prototipi. Quindi... Cioè, all'inizio erano le navi. Le navi erano tutte NX, con designazione NX. Dopodiché, quando si è passata a Starfleet e Forte Stellare, hanno continuato a tenere NX per un certo periodo, solo per i prototipi, sì. Però dopo sono già stati ragazzi, ma non so se avete avuto modo di leggere, facciamo questo parallelo anche un po' inquietante, e torniamo un po' con la mente al primo Star Trek, al primo film di Star Trek. Ragazzi, la sonda Voyager 2 ha ricominciato a trasmettere. È una brutta storia. Secondo me è Bigger. Capito? Ma non era la Voyager 2, era la Voyager tipo 45. No, la Voyager 2. No, era la prima, sì. No. Adesso vado a cercare. Vai a cercare. Comunque, e invece tu, Sbano, fino adesso? Ripeto, faccio fatica a vedere un episodio a settimana proprio perché lo so, infatti, poi i bastardi li troncano in maniera proprio fastidiosa. Quella è televisione. Ho capito, sì. Però cioè, ho visto le peggio io. No, ma nel senso che te fanno sta con la bava alla bocca appena settimana, no? Cioè, dicendo che considerando che durano 45 minuti, diciamo che questa è una di quelle serie che quattro puntate te le guardi tutte de fila, sì, proprio, anche perché comunque ti ripeto, tu a un certo punto sei ansioso di capire come va avanti la storia, come si evolve. Io comunque continuo a sostenere. Ah, scusa, finisci? No, vabbè, diciamo il grosso te l'ho già detto. Poi che sia un episodio leggermente più interlocutorio, leggermente meno appassionante, quello... però diciamo che crea i presupposti. Purtroppo in questo momento ti sta comunque raccontando una storia che fino adesso sarebbe un po' troppo criptica, no? E nonostante che fa lo spiegone all'inizio, però in realtà tutti questi personaggi che vengono messi in ballo, se tu non conosci anche, ecco, come Murdoch, no? Anche perché hanno pochi minuti la serie, tutto sommato, per introdurre un sacco di personaggi. Esatto, e ne manca ancora uno, allora. Almeno uno ne manca, poi non so quanti, che manca Romulano ancora, cioè nel senso, è il tizio che sta nell'equipaggio con loro. Ah, quello l'elfo Romulano. Quello elfo, sì, esatto. Insomma, quindi alla fine. Dico che fino adesso, come ho già detto, è esattamente la serie che era la Voyager 6, per l'esattezza. Vabbè, ok. Quindi, meno male. Non esiste, meno male. Siamo fermati a due noi. Però, però quella che c'era è tutto comincia. Comunque, dicevo, è esattamente la serie che mi aspettavo. È esattamente il personaggio che speravo di vedere e che infatti lui ha lavorato tanto su questo. Io leggo Ansa, la sonda Voyager 2 si è riattivata. Vabbè. Okay. Quindi non è Voyager 6. Voyager 6 è quella del film. Ah, ok, vabbè, ok, ok. Cioè, secondo il film erano lanciate 6. Beh, potevano pure tenersi a quelle che si erano sicuri. Io comunque vi ricordo, giusto per farvi capire, che la Voyager 2 l'hanno lanciata nello spazio nel 77. Certo, certo. E si è riaccesa, così. Pensa che noi abbiamo macchine molto più recenti che non si accendono, esatto, più. Tu pensi che si è riaccesa, in realtà l'hanno riaccesa. Sta tornando indietro. Esatto. Comunque dicevo, è esattamente quello che mi aspettavo, è esattamente il personaggio che mi aspettavo, ma da lui, da Patrick Stewart, per quelle che erano le premesse che lui aveva dichiarato, non mi potevo aspettare altro, perché lui non voleva fare The Next Generation, lui voleva fare un'evoluzione, un personaggio fragile, debole, ancora legato a dei principi, con qualcosa di insospeso, che parte per una quest improbabile per uno come lui, se non fosse per il fatto che comunque probabilmente creerà poi l'unica cosa che può fare legami. È creare la cruz, esatto, cioè, il party. E creare dei legami, dare una motivazione a tutti, a parte la tizia, la biondina, che è ovviamente lì apposta per fare la spia, perché cioè, molto probabilmente sì, però cioè, la scienziata dici, sì, forse sì. Anche troppo palese per essere vero, però magari esatto, cioè se è così l'hanno è un po' pacchiana sta cosa, cioè, l'hanno no, ma io non credo, dai, ci rimarrei troppo male, credo che c'ha la faccetta proprio da come di non so, io l'ho vista in Newsroom e mi stava troppo sul cazzo sul Newsroom, quindi adesso non riesco a scorporare questo fatto che mi stava sul cazzo, quindi Zubinski chiede che cos'è sta storia della Voyager. Lo ribadiamo, la sonda Voyager 2 lanciata nello spazio nel lontano 77, spenta, non so, perlomeno che non trasmetteva più da tanti anni, si è riaccesa. Probabilmente avrà fatto il giro dell'orbita che doveva fare e è tornata in... Ma sì, ma no, ma la Voyager ormai è ita, eh. Cioè sta fuori il sistema solare, cioè proprio sta nello spazio interstellare, cioè profondo, ormai... Cioè, non so cosa possa trasmettere, cioè, non c'è niente intorno. Esatto, a meno che non lo sappiamo, ma in realtà è andata lì a cambiare. Perché vi ricordate che i vulcaniani erano parcheggiati al di fuori del sistema solare? O stavano vicino alla Terra? Non mi ricordo. Stavano in doppia fila col motore acceso. Esatto, quando Zefran Cochrane... Chi è sto stronzo? No, a vedere. No, questo no, ha fatto la curvatura. No, pure Stevezzenti. Sono questi che vogliono. Voglio sparare un bel siluro fotonico, che è la soluzione per tutto. Infatti, poi, secondo me, lì avrebbero risolto. Che poi era quello che volevano fare i Borg. Che era la cosa del siluro fotonico? Noi, aspetta che... Che cazzo abbiamo tirato fuori il siluro fotonico? Sì, è vero. Che è la soluzione per... Allora, quando tu... inavvertitamente infrangi la prima direttiva, c'è un siluro fotonico, allora, vaffanculo. C'è una puntata, come tante puntate, su The Next Generation, dove loro vanno in quel pianeta protovulcaniano, dove c'è praticamente questa società vicina, diciamo, all'età del bronzo, il Picard, cioè, esatto, che loro praticamente contaminano la loro cultura perché si fanno sgamare e cercano ovviamente di risolvere la questione in una maniera assolutamente improbabile, perché poi ovviamente complichi le cose sempre di più, e invece lì teletrasporti tutti via, siluro fotonico, è risolto il problema. E nessuno testimonierà il fatto che tu hai infranto la prima direttiva, capito? Cioè, che è successo? È partito il siluro fotonico. Abbiamo fatto un'esercitazione. Stavamo pulendo il tubo dei siluri e poi un'esercitazione. Infatti, okay. Guardi, mi sa che mi c'è partito pure l'addetto ai pulizie dentro. Quindi, vabbè, comunque. Guarda, che secondo me in questi casi non devi manco teletrasportare nessuno. Perché quelli poi... Ma lasci testimoni. Vabbè, no, però qui stiamo andando un po' troppo oltre, no? Però sì, comunque a volte... Il vulcaniano l'avrebbe fatto, per dire. Il vulcaniano l'avrebbe fatto, sì. Oh, dice Peppe Rizzer, da allora le due Voyager stanno nello spazio interstellare. Quando la NASA ne ha avuto percezione, ha messo tutti i sistemi... E ha cancellato. Stavo leggendo, perché cancelli le cose, Rizzard? Cioè, è brutta questa cosa che hai fatto. Davvero, ci stai nascondendo qualche cosa. Esatto, c'è qualcosa che non ci vuoi dire. Che ci nasconde, oppure che non ha chiamato Trump e gli ha detto no, fatti i cazzi tuoi. No, oppure qualcuno, oppure qualche rumulano è entrato dentro la stanza sua. Qualche vesuviano. Che ricordiamo, i rumulani quando muoiono si inghiottono l'acido e... Ah ragazzi, no scusate, è vero, no, di questo dobbiamo parlare un attimo. Beh, ma da quand'è che ruttano vomito corrosivo? Ma io penso che abbiano tipo un qualcosa dentro sì, è tipo l'equivalente rumulano della capsula del cenone nascosta. Bravo, esatto, tipo sì, quelli... ho capito, però spruzzano. Invece quelli che si facevano autoesplode, vi ricordi? Però ragazzi, spruzzano che pare l'esorcista. 10 secondi. Lo sbrattone di vomito. Comunque ha rimesso il messaggio. Allora, dicevamo, le due Voyager stanno nello spazio interstellare. Quando la NASA ne ha avuto percezione, Giappone ha messo tutti i sistemi possibili in stand by per estendere ancora un pelo l'autonomia dei generatori 3. Non so se una nota, il 3 è una nota, e dei radioscopi. Vabbè, stai a copiare in pratica. Alcuni strumenti di bordo erano ancora ben funzionanti. Comunque c'avevo ragione, hai visto, c'avevo ragione. Da quante ne so, quante ne so. Attenzione, zio Mischi ci dice: tu, io sono Vesuviano. Sì, vabbè. Quindi abbiamo un extraterrestre in chat. Ah, sei Vesuviano? Vabbè, San Giorgio al Cremano? Dove sei? Dove dici? Fatti i cazzi tu. Uno indaga. Insomma. Stava bene a prendere. No, perché conosco un paio di babbetti da quelle parti, magari. Fagli questo vigile. Comunque, in ogni caso, c'è sta la spia della rumulana, riserva. La spia rumulana che prima si va più a pizza e tori due o tre volte e poi si suicida. Finita la broda. Che, cioè, succede. Sì, quella è una stronzata, cioè nel senso... Mazzate subito, no? Esatto, cioè stai lì a rispondergli pure. Vabbè, io non so voi al posto loro, insomma, prima di farmi la capsula di cianuro ci cioè, penserei, no, due o tre volte. Ma quelli schiaffo me lo piglio nel dubbio. Vabbè, ma quelli sono fanatici, cioè quelli è un corpo scelto di ultra fanatici, cioè nel senso... C'è sta, cioè, non c'è sta il fatto che sta lì a farsi via. Poi quella che gli spruzza, che stava a spruzzare l'acqua. Dai, ma che è sta cazzo? Solo per svegliarla, fisciagli addosso, che è più elegante, insomma. Beh, l'altro l'avrebbe picchiato, noi non siamo più come loro. Comunque, ragazzi, la prossima volta fateci sapere anche voi, magari scriveteci da qualche parte, insomma, quello che state pensando di questa serie che veramente. Secondo le vostre me, idee, le vostre conclusioni. Secondo me veramente porta Star Trek in un altro livello. Cioè è Star Trek l'ambientazione, ma è proprio evoluta la storia. Cioè finalmente una storia. Storie sostenibili anche nell'epoca. Anche credibili, esatto, cioè, sì. Nel senso è tutto sommato è veramente affascinante. È stato un grande esperimento e secondo me loro si sono accorti di aver fatto una bella cosa. Ecco perché hanno detto Patrick, noi caro, non te. Stirare proprio adesso. Prima che muori, facciamo la seconda stagione. E lui ha detto sì, perché potrei anche morire. Ha detto sì, solo se viene pure Guinan, però. Ricordiamo. Ah, che... Guinan, è vero, gliel'ha chiesto. Vabbè, ma quella farà pure una comparsata. Ma sì, per carità. Secondo me, da quello che ho letto in giro. Secondo me una warfata cioè, scappa fuori. Attenzione. Ma li abbiamo nominati tutti, anche una giornata, una. Solo Crash. Giordano non lo so. Solo Crash non verrà. No, Giordano, Crash no. Anche perché a Crash gli hanno dato un compito. Che è sì, quello. A proposito di Crash. La dottoressa. Anche ma la dottoressa Crash. La dottoressa. Potrebbe essere morta. Potrebbe. No, non no, credo. Non però morta. Magari. Non è detto che tutti quanti siano. Però che fine fa? Allora potrebbe. L'ultimo, io ce l'ho delle ipotesi. L'ultima stagione si baciano anche. Lui. Loro in teoria. Secondo la storia virtuale sono stati sposati. In teoria. O comunque ci hanno avuto un inciucio. Il ciuccio ce l'hanno avuto durante tutto il tempo proprio perché comunque non se lo dicevano, se lo facevano, non te lo facevano vedere, ma secondo me ogni tanto. Allora, volevo spiegare una cosa. Volevo spiegare una cosa. Allora, ragazzi, un attimo, volevo spiegare una cosa a zio. Ma che perché, diceva che faceva dei riferimenti alla serie Netflix. E dice parlando ovviamente di Discovery come quella cazzata su Netflix. Allora, attenzione, però, perché è vero che Discovery attenzione. È coprodotto da Netflix, mentre Picard è coprodotto sì, da Amazon. Stesso team, ma al di là di quello, il broadcaster originale americano che è sempre CBS All Access, quindi in patria, anche se a noi arrivano su due fonti diverse, in patria è tutto su CBS, quindi è tutto collegato e lineare. Non è che quelli di Netflix l'hanno fatta brutta, quelli di Amazon l'hanno fatta bella. La produzione reale è sempre CBS, quindi così. Insomma, tanto per riflettere sul fatto cioè, che in realtà è la distribuzione solo la distribuzione in Europa che è diversa. Lì è tutta colpa di JJ per certe cose. Non c'entra, non è colpa di Netflix e non è merito magari di Amazon. La produzione è che ovviamente se ci metti anche degli appassionati e ci metti anche il contributo di un attore, di un personaggio che è stato introdotto nella serie per tanti anni come Patrick Stewart, il risultato probabilmente va da sé che viene meglio. Ecco, metto un po' di musica jazz. No, ma Zio Mischi dice ritornerà pure Wesley Crusher. Ma in realtà a Will Wheaton gli hanno dato il post trasmissione proprio perché dai dietro famo fa. Ma c'è un modo di vedere questo After Track con Will Wheaton? Sta sempre su Amazon. Dovrebbe stare su Amazon. Poi io non ci ho fatto caso. Poi io perché non. Cioè, oddio, Amazon diciamo è organizzato un po' peggio di Netflix. Sì, come gestione dei contenuti. Punto di vista. Sì. Comunque considerate una cosa, perché questo me sono... Allora, voi sapete che Discovery è partito male, perché secondo me hanno detto famo sta cazzata, dai, così tutti i fan sono contenti. poi hanno cercato un po' di rimetterci delle pezze, dandogli anche un po' più di carisma, sai, buttando anche Pike, quindi tutta una serie di determinate cose. Quello che sappiamo è che il team di sviluppo non soltanto più o meno non è che è lo stesso, però è coordinato da un gruppo di produzione tra Kurtzman e il figlio di Ron and Bernie, che praticamente sta dando una coerenza a tutte quante le serie. Infatti la nuova stagione di Discovery, no, di, no, di Discovery. Discovery, scusate, praticamente subirà in qualche maniera quelle che sono le conseguenze di quello che succede in Picard. Quindi alcuni risvolti che poi... Beh, non c'è più la federazione. Esatto, diciamo, però non così direttamente, però quelli che sono gli eventi creeranno poi ovviamente le conseguenze degli eventi futuri con il tempo che ci vorrà. E quindi chiaramente alcune cose le ritroveremo, insomma... Io però vorrei lasciare, diciamo, un sospeso su cui poi magari riflettere nelle prossime settimane. Sullo sfondo, diciamo, non... Sì, ma perché queste pause così? Perché mi piace il jazz. No, ti piace. No, dicevo, sullo sfondo, non come elemento determinante della serie, però sullo sfondo, come richiamo, o a fine stagione o magari a fine della prossima stagione, l'idea di vedere un Enterprise F o addirittura un Enterprise G, e che in qualche modo Picard ne abbia così un momentino a che fare, non vi commuoverebbe? Tipo, no. Cazzo, un'altra Enterprise è ancora più... Perché posso dire una cosa, per me Picard è il capitano più figo della... Assolutamente sì. Ma lui lo sanno anche che è così. Per questo, sai, rovinare un personaggio e ci metti zero, eh? Cioè, nel senso, è la prima volta che a me mi capita di vedere un postumo di una storia che ho amato tantissimo, a che ha una dignità, perché di solito finiscono è come Han Solo che muore da stronzo. Sì, non è che l'ha fatto per pagare il mutuo, l'ha fatto perché evidentemente si sentiva perché che c'era la storia giusta, perché quella storia ci ha creduto e infatti gli ha dato, guardate, ma pure... visto pure lui che un po' faccia ragazzo pure, cioè, no, come vecchi è che un po' faccia, cioè, raga, ma c'è pure l'interpretazione, cioè, ma guarda, lui sta a fare un lavoro della Madonna, mo noi questa cosa per ora l'abbiamo completamente trascurata, ma c'è un lavoro della Madonna sta a fare, cioè è credibile, cioè vabbè, guarda, cioè, per certi versi la potremmo definire un lavoro biografico, nel senso che lui ci sta mettendo molto Patrick Stewart, cronologicamente il personaggio è stato scritto per coincidere con la sua età reale, col suo modo di vivere. È più vecchio. Sì, vabbè, però chiaro, certo. Più vecchio. Però, 7 anni sono tanti, di differenza. A quell'età mi sa che 7 anni, vabbè, però sei sempre nel 24esimo secolo, è vero. Quindi, sai. E però c'è sempre questa sindrome irumodica che incombe, è oramai da 100.000 anni. In realtà, scusa, Pepe Rizzard dice: Dumboy, no, basta con Enterprise, voglio vedere Picard che spara per primo. Allora, vedi che non c'è seguito, abbiamo parlato di poliziotteschi, e Mark il poliziotto che spara per primo. Sì, però qui la situazione è diversa, Cioè qui si sono rotti... Cioè lui, per esempio, perché vuole la tizia? Lei lo dice, perché tu hai ragionato... con uno schema che io ho sempre sottovalutato, cioè, nel senso, io ho sempre visto la bandiera della purezza e della federazione, le regole, non ho mai dovuto chiedere a un avvocato, quando lui dice non ho mai dovuto chiedere a un avvocato una consulenza prima di fare la cosa giusta, quindi adesso lui considera la cosa giusta come la cosa da fare, a prescindere, no, dalle regole. E questo è l'evoluzione di un personaggio che per me veramente ho tanto di cappello, devo dire, grandi, bravi, perché ribadisco, a fare una stronzata è X, cioè, nel senso, mancano ancora 6 lo so, infatti ogni volta la guardi sempre un po' col cuore sospeso, perché dici no. Ma quando tu dici la tizia parli di Raffi, okay, bravo, okay. Sì. No, perché volevo un attimo contestualizzare. Sì, scusa, non ho memorizzato il nome ancora, l'avrei chiamata la drogata, l'alcolizzata, no, la drogata proprio. Beh, sì, se fa praticamente, c'ha le piantine di Maria. Se fa la sativa, è l'astro Maria. Quella, esatto, l'astro Maria è brutta. Vabbè, non è che ci metta molto a fare il vecchio. Cioè, questa immagine di io che tolgo le parole di bocca a zio Mischi mi fa un po' schifo. Cioè, capito? Che apre la bocca e gli che schifo. Meglio togliere che mettere. Non è che ci voglia molto a fare il vecchio. Non è così, perché lui è un attore della Madonna, ragazzi. Cioè, non è a far vecchio poteva fare come lo ha... Allora, prendete Ieri, Oggi e Domani. Quella era un'interpretazione ridicola, per quanto ci è piaciuto, perché, per carità. quel personaggio imballato, quello, quella fiction così finta, patinata, no? Quello era grottesco, cioè nel senso è il vecchio che faceva, è uno che faceva il vecchio, invece lui qui, cioè lui che vecchio. No, regà, cioè, sul serio, cioè, per me... Oh, comunque, per fare spoiler, ma non troppo, stavo leggendo su IMDb che Jerry Ryan, quindi 7, perché non è più 7 di 9, è semplicemente tette, è accreditata per 5 episodi. Quindi diventerà un personaggio... Ah sì? Eh sì. Interessante. 5 episodi, quindi ci stanno 6 episodi, non nella prossima, fra 2 episodi... Ma c'è la scena della doccia, tipo, tu dici... No, non credo. Purtroppo no. E continuano a non fare vedere i cessi, e poi questa è una cosa che mi dà troppo fastidio. Anche se io a un certo punto, la nostra teoria dell'altra volta è quando che si è teletrasportato, il cibo replicato si biodegrada nell'organismo. L'altra volta, appena si è teletrasportato, appena si è teletrasportato Picard sulla nuova nave, che non sappiamo come si chiama, no, la nuova nave, ancora non lo sappiamo. A un certo punto allargano lo scenario, prendono l'inquadratura, e c'era la specie, uno strano anello tipo. Ciambella del cesso, è appoggiato a un muro, e trova che sta il cesso, poi si sposta, quindi non si capisce bene che cos'è. Ragazzi, io secondo me sogno che sia il cesso. Secondo me hanno le conchigliette. Può essere tre conchigliette, come girare tre conchigliette. Ma magari cioè, quando hanno un accesso si teletrasportano la cacca di fuori. Potrebbe anche essere questa. Vabbè, però su Enterprise lo facevano vedere il cesso. Cesso, sì, vabbè su Enterprise erano più, diciamo, vicine alle nostre caserecci, più caserecci. Non c'avevano il teletrasporto, quindi non potevano teletrasportarsi. Ma avevano il teletrasporto. Eh sì, ma però... era ancora sperimentale, c'era meglio che... però lo usavano. Sì, va bene, allora, sì, caso di necessità, però se devi andare a cagare non ti togli la merda con il teletrasporto, no, per sicurezza. No, però loro dovrebbe uscirti fuori il tintestino. Però Cosoli come si chiama lì, Tucker lo spiega quando loro fanno le rispondono ai bambini che tutto il materiale organico di scarto viene comunque riconvertito in scarponi, divise, cose che scarpe del merda, si indossano la merda, tutto chiaro, esatto. Le divise del merda adesso trasformate in energia e poi rimessa come, certo, le trasformazioni della materia è normale, ci sta, quindi anche la cacca, che poi tutte queste tecnologie, la cosa divertente è che sono tutte queste tecnologie, per quanto improbabili in qualche modo, come dire, sostenibili, sono arrivate tutte dopo la tecnologia meno ragionevolmente sostenibile, che è la gravità artificiale senza un giroscopio, sostanzialmente. Però vabbè, tu che ne sai, c'è il giroscopio virtuale loro, come i cellulari, cioè. Certo. Vabbè ragazzi, io posso dire una cosa, vi voglio far notare che sono 22:30, secondo me, come dire, Picard c'ha passione, c'ha molto passione. Non lo so, aspettate, scusa, è partito, un colpo, stava pulendo il tubo d'ancia siluri di provera. Comunque guarda, a me il jazz, la cosa jazz è, però secondo me ci vuole un po', pure un po' di ricchettino sotto ogni tanto. Ma secondo me il jazz unito a un whiskino, a un barbonino, È vero, accendiamo pure il caminettino. È volendino. E poi c'è qualcuno che ci fa massaggino ai piedini? No, facciamo la grigliatina, scusate, un'altra c'è il camino acceso. Intanto leggo le ultime news. No, non ci frega un cazzo, sono 22:30. Conservatele per la prossima settimana, le diamo. Ma la facciamo un sondaggio, volete che chiudiamo la trasmissione? Anche io voglio che si chiuda la trasmissione. Anche io, benissimo, ok. Va bene ragazzi, io direi che, anzi, vi saluto proprio con la sigla di Star Trek questa sera, Picard, perché mi piace veramente tanto. E la trovo una delle cose più belle. Attenzione, c'è l'ultimo di Trump. Allora, il coronavirus, Xi Jinping dice che in Cina la situazione è grave, ma Trump risponde: tranquilli, il virus scomparirà col caldo. Quindi siete tranquilli. Oh, no, grazie, sarà la meno male, il meglio della nonna di Trump. C'è scritto qua, certo, c'è scritto sul Fatto Quotidiano, quindi potrebbe anche essere una puttana. Ma sa una cazzata, dai. Il virus scomparirà col caldo ad aprile, quindi ha già detto che fra due mesi scompare. Ma lo sai perché lo sa? Perché ha fatto lui. Perché ce l'hanno buttato loro. Buttano il virus. Vabbè ragazzi, allora io ringrazio e saluto Marco, anche detto Marco Gualdi. Ciao, vi saluto con le parole di Trump. Il caldo in linea di massima uccide questo tipo di virus, proprio quello che io lo so. Io lo so. Molti pensano che sparirà ad aprile con il caldo. Vabbè, complimenti, quindi aspettiamoci, vediamo ad aprile. Meno male che c'è Trump. Esatto. Guarda, ero preoccupato, devo dire, adesso non più. No, infatti pure io. Cioè, anche se io sono abbastanza certo che non è questo il virus che ci sterminerà. No, ma perché l'hanno questo. Già mezzo. No, ragazzi, allora l'abbiamo detto la settimana scorsa, lo ribadiamo. Quindi... il tasso di mortalità è simile ad un'influenza normale, perché se ci fate caso, in Cina ci sono stati circa 1000 decessi, ma su 40.000 contagi, facciamo il rapporto, insomma, non è bello. Già, diciamo un po' di più dell'influenza normale, però sì, comunque. È che la gente che muore di influenza normale, che generalmente sono persone immunodepresse, anziane, cioè non ne parla nessuno. Esatto, esatto, certo, questo è vero, sono d'accordo con te. Bene, quindi ringrazio e saluto anche Walter, anche detto Sbano. Lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità, da me Simone Pizzi qua su Runtime Radio. Ci vediamo alla prossima puntata, che è lunedì prossimo. Forse, chi lo sa, mettiamo un po' di suspense. È quasi sicuramente lunedì prossimo, sicuro non ci sto io, questo così lo dico subito perché, okay, perché sto a Milano e quindi ci vediamo. Penso che avevamo spostato tutta quanta l'ambaradama a lunedì, perché così ci era l'unico giorno che c'era il pizzo. Meno infatti, male, quindi, vabbè, vabbè. Per sempre. No, vabbè, ma questo è successo solo tre volte su quattro, ma va bene. Cioè, no, è il 50%. Quante puntate abbiamo fatto fino adesso? Di quest'anno ne credo che abbiamo fatte quattro, in cui quindi 50... due non c'eri tu e in una non c'era Gualdi. Io resisto in defesa. Anche alla prossima. Non mi lasciate da solo, perché da solo una puntata non sarei in grado di farla. Ma sì, ma chiappi qualcuno. Sì, oppure fai con Michela. Fai con Michela. Ma non c'è Marco Michela. Marco Michela, c'hai ragione. Sì, bene, ciao, ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, non fate scherzi. Hai soldi, ci sono dei soldi, Pizzi. Sì, ciao.